Chi è Berlusconi? È un messia mandato da chi? Da Dio, che sta salvando l'Italia, e dobbiamo ringraziare che in questo millennio c'è Berlusconi, se no altrimenti eravamo fregati tutti. Sì, perché forse dobbiamo aspettare ancora un altro mille anni che arrivi un'altra persona come Berlusconi. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Noi abbiamo già detto di essere pronti ad uno schema che abbia come bussola il bene dell'Italia. Ma scusi, la Merkel quando è successo in Germania l'ha fatto, perché Bersani non ha il coraggio di fare un gesto di questo genere? Forse perché voi siete impresentabili, ma voi vi rendete conto? Allora adesso mi faccia dire a me. Ma scusi, ma come ma si permette? Ma scusi, ma come si permette? Ma come si permette di definire sono noi? Sono stata un po' pesante. Si permette di dire impresentabili noi? Le spiego perché. Da quale mi titolarità di cattedra? Va bene, segretario, io mi scuso per il mio giudizio molto franco, ma diciamo, come dire, poi uno a un certo punto deve anche prendersi la propria responsabilità. No, il problema non è l'ingiustizia del giudizio. Il tono di questa storia, che però purtroppo, insomma, mi scuso di questo, ma confermo la mia opinione in merito. E io confermo. Allergico a tutte le prediche. Può una conduttrice del servizio pubblico come Lucia Annunziata dare dell'impresentabile a Angelino Alfano, insomma una parte consistente del paese, esprimere un giudizio politico così forte? Sì o no? Secondo me, l'ho già detto ieri in più salse, per chi non l'avesse sentito, sono molti ovviamente, assolutamente sì. La commedia napoletana dei grillini. La commedia napoletana dei grillini. Perché qui trattasi di commedia, caro Parenzo, no? Stai male? Stai male, eh? Malissimo. Stai male. Mamma mia. Ma che hai fatto? Sono andato sabato a fare un collegamento di onda. E poi quel cretino di Sgarbi mi ha portato a vedere un cimitero con una cappella. Sì. Nevicava, c'è un freddo pazzesco. Vieni a vedere una cappella. Ma che sei andato a fare con Sgarbi? Ma che sei andato a fare a prendere freddo con Sgarbi? A vedere una roba del 500. Adesso... Ma tra l'altro Sgarbi ti dà pure del cretino. Senti, grasso, Parenzo non sai nulla. Senti che dice. Addio, ciao. Addio che è? Fermo. Che grasso sì. È un'invenzione di Bersani. No, l'ha inventato lui. Quando si è candidato in Groia, cosa ha pensato bene di fare grasso? Bersani, di inventare grasso, il quale ha rinunciato alla sua battaglia contro la mafia. No, cadura di grasso. Sei un cazzo proprio. Vabbè, tu sei. Cioè, ti sei fatto dare dell'ignorante da Sgarbi e in più ti sei beccato pure una mezza influenza con la voce che manca, un disastro. Vabbè, ti aiuterò io, come tu hai fatto una volta a Torino, ti ricordi, no? No, non era a Torino, era... A Torino. No, a Torino, anche a Roma. Buonanotte. Ferrara numero uno ieri sera in onda, sui grillini. Sentite, mostri orrendi, mandare i carabinieri. Ma stai calmo, stai tranquillo, ma che è? Sono dei mostri orrendi. Però che sono penetrati in due tra le più antiche istituzioni. Avevi di questa detto Repubblica, che non avrebbero preso voti. Dove Mussolini ha detto avrei potuto fare di quest'aula un bivacco per i miei manipoli. Dove il re ha parlato, il papa ha parlato, una schifezza rivoluzionaria orrenda. Bisognerebbe mandare i carabinieri, chiudere la camera, chiudere il senato con l'apriscatole. I leghisti sono meglio come degli aristocratici dell'antica partitocrazia in confronto ai grillini. Per Berlusconi Grillo è Scientology. Oggi Grillo ha messo un po' in riga i dissidenti, anche se poi non li caccerà. Non li caccerà, ha commissariato i due gruppi parlamentari alla Camera e al Senato con due consulenti della comunicazione nominati da lui e da Casaleggio, che sostanzialmente vuol dire che ha messo là due persone di fiducia per tenere formalmente per la questione della comunicazione, ma in realtà sono due commissari politici, diciamo la verità. E intanto Annarella continua a imperversare davanti alla Camera, su Berlusconi, continua a imperversare. Da Berlusconi a Grillo. Pure Berlusconi, ma perché non butti una chiave, ce l'hanno una pallottola pronta? Ti ha rubato tu, tra lui Crassi ci hanno mandato a zampe quell'aria. Crassi e non Craxi. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Ho sentito dei discorsi, cari ascoltatori, sabato da parte dei nuovi presidenti della Camera e del Senato, persone rispettabilissime, ma i soliti discorsi retorici con un sovrappiù di, come dire, di come se avessero eletto un papa, come se dovessero fare un programma di governo. Sono due burocrati i presidenti della Camera e del Senato, due persone che devono fare bene il lavoro di, no, di direzione d'aula. In più, Grasso, che abbraccio fortissimamente, ha detto anche che bisogna fare una commissione d'inchiesta sulle stragi irrisolte. Ma di che stiamo parlando? Le commissioni d'inchiesta vanno abolite, chiuse. Ho sempre cercato verità e giustizia e continuerò a cercarle da questo scranno, auspicando che venga istituita una nuova commissione d'inchiesta su tutte le stragi irrisolte del nostro paese. Beh, a proposito della coerenza del 5 Stelle in queste ore, infatti bisogna fare le commissioni d'inchiesta. Tu sei d'accordo con Grasso, ovviamente, no? No, io credo che sentire le parole della seconda carica dello Stato, rievocare la mafia, sì, la battaglia contro la mafia, sì. Ma che c'entra questo? Su quello scranno, fino a poco tempo fa, c'era una persona, il signor Schifani, che della mafia ha parlato molto poco, mi pare, molto poco. Ma che dici? Ma sei malato? Non sai che dire? Cioè, stai dando del mafioso a Schifani? Stai dando del mafioso a Schifani? No, tutt'altro, ho detto che non ha mai parlato. Ma chi te l'ha detto? Ma discorso, quando mai? Nel suo discorso di insediamento. Ma io sto parlando di un'altra parte che non è vero. Lui l'ha messa come priorità. Allora le vittime della strage di Capaci, e l'ha messa come priorità. Priorità che? Le commissioni d'inchiesta, ma di che per le commissioni d'inchiesta sulle stragi irrisolte? Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Su, ma siamo seri? Ma che c'entra? Ma le commissioni d'inchiesta, dai, su. A proposito della coerenza dei 5 Stelle, comunque grazie, una brava persona. Ma io da Schifani non comprerei neanche una macchina, sì, ma neanche un lecca-lecca. Hai già scritto questa stronzata, a parte che non vedo perché devi dare del criminale a Schifani, che fino no, a prova non ho contraria. Dato del criminale, ho usato uno slogan americano quando in campagna elettorale si diceva comprereste mai una macchina da quest'uomo. La solita banalità. Da Schifani, come dicono in America, non comprerei manco un lecca-lecca, ma non mi interessa. Pensa te come sei messo. Come sei messo a banalità. La fiera delle banalità. Crimi, signor Crimi, che prima dice che c'è stato qualche voto per coscienza, espressione di libertà. Sentiamolo sabato. Sicuramente nella cabina elettorale qualcuno ha agito in coscienza, e questa è stata anche una grande espressione di libertà. E poi, dopo la reprimenda grillina, dice che la linea era né Grasso né Schifani, e dunque quelli che hanno votato per Grasso si sono messi fuori, cioè hanno fatto qualcosa che non bisognava fare, hanno violato e devono trarre le conseguenze. Ma in realtà poi non ci sarà nessuna espulsione, perché verranno bastonati e basta. Noi abbiamo firmato tutti un regolamento molto chiaro in cui si vota a maggioranza, si tiene quella linea, punto. Non ci sono dubbi, a maggioranza abbiamo votato di tenere la linea, di non votare né Grasso né Schifani. Allergico a tutte le prediche, Pinocchio di tutte le favole, che del grillo parlante se ne fregherà. Al diavolo il predicatore. Beh, Ferrara scatenato sull'ONU, ne vogliamo parlare? Sull'ONU ieri sera, beh, uno spettacolo. L'ONU è un cesso. Ma un porta, uno che è stato portavoce dell'Alto Commissariato dei Rifugiati dell'ONU deve... Ma portavoce di che? L'ONU è un cesso. Vabbè, cioè, dai, allora se non vogliamo dire, dai. Hanno appena fatto un processo perché vanno in aula ubriachi tutti i diplomatici dell'ONU. È una delle organizzazioni più ridicole del mondo. Giulia, ma che è una cosa seria allora. Molto seria e molto seria anche la Boldrini. Il fatto che vi faccia arrabbiare la Boldrini mi dice che è un'ottima soluzione. Scusa, ma era no, ma io volevo no, dire, Bersani, tu dici voglio sapere se lei è d'accordo. Beh, Lucci che insegue la Russia, intanto siamo qui aspettando. Ma scusa, il fatto... Sì, dimmi. Io sono quasi sempre d'accordo con Ferrara. Sì. Ma il fatto che i funzionari dell'ONU siano degli ubriaconi, come ha documentato un'inchiesta qualche giorno fa, non significa che lo siano tutti, vabbè, certo. Non vuol significa no, che l'istituzione sia sputtanata, lo sono gli uomini sputtanati. Su questo. Uomini sono sputtanati come lo sono stati quelli della prima, della seconda repubblica, della banda di Senti Lucci la Russa e riprenditi. Sì, vabbè, d'accordo, senti Lucci la Russa e riprenditi. E come la Russa? Oh, c'è la Russa! Intervistato da nessuno. La Russa, guarda, stanno tutti i giornalisti, stanno tutti a prezzo Grillino, attente se incula più nessuno. E invece attenti inculano da una vita. Però devo dire che alla fine il vecchio La Russa ha trovato la battuta giusta con Lucci. Beh, poi c'è la questione, con chi lo vogliamo mettere? Gasbarra del Partito Democratico, Lucci con Gasbarra del PD, non morire, fermo, non morire. Moralismi della sinistra, che cosa faresti per fatte dare la fiducia da Grillo? Glielo daresti al culo? No. Non si va da nessuna parte. Come convinceresti? Ci sta provando a Bersani, no? Capirei. Siamo qui, 800 24 00 24, è con noi Mario Borghezio, europarlamentare della Lega, buonasera, ciao Mario. Eccomi qua, buonasera e buona guadagna a tutti. Ma da dove cavolo sei collegato che non si sente un cazzo, Mario? Sono a Ventimiglia. Ho capito, cerca di collegarti meglio, non si capisce nulla. Come al no, adesso si dovrebbe sentire perfettamente bene. Sì, siamo certo, perfettamente. A plein air. Sì, en plein air, mio nonno. Scusami Mario, ma dimmi una cosa, ma come hai preso l'elezione della signora Boldrini a presidente della Camera, caro ma Mario? Ma questa è veramente una cosa grottesca, perché ci presentano come personaggio della società civile uno di quei tipici rappresentanti del fancazzismo buonista internazionale. Voi sapete un po' FAO, voi sapete queste organizzazioni dell'ONU che spendono il 70-80% dei fondi per mantenere questi funzionari fancazzisti a far finta di interessarsi dei poveri del mondo e intanto soggiornare negli alberghi a 5 stelle, fare conferenze stampa, crearsi, come nella fattispecie di questa signora, i presupposti per le carriere politiche. Cioè, scusa, secondo te questa... Scusami Mario, ma secondo te questa Boldrini è dunque una fancazzista fondamentalmente? Ma certo, ma come tutti questi qua, ma l'abbiamo vista, certo, l'abbiamo vista in 100.000 occasioni, sì, sproloquiare a destra e a sinistra senza capire un accidente né dell'immigrazione né della reale situazione. Difendeva i clandestini, difendeva i clandestini, rifugiati politici, difendeva i clandestini a Lampedusa, no? Sì, ma con un linguaggio direi che neanche i vendoliani, cioè la più trita demagogia terzo mondista e buonista che persino le persone più intelligenti dell'estrema sinistra evitano. Scusami Mario, ma proteggeva anche i delinquenti secondo te alla fine? Ma io dico questo, che questi proteggono soprattutto se stessi, questi vivono, speculano e soggiornano comodamente a spese dei poveri, perché le organizzazioni internazionali sono finanziate dagli stati, sì, e in realtà servono per mantenere, come basta andare alla FAO a Roma a vedere, sì, i bilanci, per mantenere una pletora di fancazzisti inutili. E quindi in cioè realtà, una inutile in realtà, fancazzista aggravano la situazione dei poveri. Cioè una inutile fancazzista, dici tu. Sottraggono fondi e finanziamenti a quelli che dovrebbero essere la tutela dei poveri, la fa gente come il Cardinal Bergoglio che circolava, sì, a piedi in mezzo alle favelas cercando di portare aiuto ai poveri veri. Questi ma a Lampedusa che faceva? Che faceva la signora Boldrini a Lampedusa quando andava lì? Non faceva un cazzo, facevano propaganda, facevano demagogia, questo è quello che abbiamo sempre sentito. Ma proteggeva attaccando il nostro governo. Ma io ve ne do un altro esempio, una gemella della signora Boldrini, è il commissario europeo all'immigrazione, la signora Redi. Vabbè, che quello faceva la lezione al governo italiano sui nomadi, e poi io ho scoperto che nel suo paese, il Lussemburgo, sono addirittura proibiti i campi nomadi. No, e faceva le pulci a noi per come. Ma scusa, la Boldrini parlava di morti senza, ha parlato di morti senza nome nel Mediterraneo, proteggeva quelli che arrivavano con i barconi, voi li volevate respingere. Faceva demagogia, faceva continuamente demagogia e lacrimucce sulla pelle dei veri poveracci. Scusa, ma difendeva anche i criminali allora? Per indagare le cause vere. E se c'è un governo che si è occupato seriamente e con vero spirito umanitario quei poveracci utilizzati dalle grandi bande criminali e mafiose del traffico degli esseri umani, questo è stato il governo Maroni Berlusconi. Allora, un collega della Lega, Mario, scusami un attimo, un tuo collega della Lega ha detto la Boldrini pisciava in testa a Maroni un giorno sì e l'altro pure. L'espressione diciamo non è forse oxfordiana, ma rende perfettamente la situazione. Vabbè, tu diciamo hai dato anche, hai fatto di peggio da questo punto di vista. No, ma io dico, trattandosi di una signora, diciamo che io eviterei una situazione di questo genere. Però scusami un attimo, fancazzista, va bene, d'accordo, abbiamo capito. Io propagandista del peggiore terzo mondismo, buonista e parolaio, sempre a spese dell'organizzazione dell'ONU. Scusami un attimo. Ci facessero vedere i loro bilanci, questi fancazzisti dell'ONU, ci facessero vedere i bilanci della FAO, eccetera, e l'opinione pubblica potrebbe considerare bene. Scusami Mario, però io voglio capire una cosa. Ma lei difendeva pure i criminali che venivano, cioè difendeva pure quelli, i clandestini, quelli che ma faceva una demagogia per secondo la quale quei clandestini dovevano essere accolti come liberatori. Questa è una cosa, capite? E dunque adesso che succederà? Adesso che succederà? La politica seria è quella di evitare il traffico di questi esseri umani. Non di incentivarne l'arrivo. Cioè lei incentivava l'arrivo dei clandestini? Ma è ovvio che incentivasse. Con questa politica bonista si trasmette con un tam-tam internazionale in questi paesi e in questo senso andate in Italia che c'è sempre qualche stronza di turno che fa propaganda e vi fa accogliere. Una stronza, certo. Ricatta i governi per far sì che vi accolgano facendo finta di non sapere che è un traffico delinquenziale che ho fa capito. Schifo l'umanità, perché il traffico degli esseri umani fa schifo l'umanità. Ok, d'accordo, dunque Mario, fermati. Sono allo stesso livello morale di quelli che fanno i traffici. Cioè, praticamente tu stai dicendo che quelli che non delle organizzazioni quelli che non contrastano questo traffico sono uguali a quelli che fanno la Boldrini è come quelli che fanno i traffici. La Boldrini ha una responsabilità morale gigantesca col suo bonismo. È una stronza, ha hai una detto, no? Una responsabilità morale gigantesca, perché loro non hanno mai fatto un cazzo per contrastare questi traffici. Allora io dico il lavoro l'hanno fatto soltanto le nostre forze dell'ordine che si sono dissanguate anche economicamente e anche io sono salito sui mezzi della Guardia di Finanza, ho visto il nostro personale militare privarsi dell'acqua per darla a questa gente, mentre certa gente viveva tranquillamente a sbaffo dell'ONU negli alberghi a 5 stelle. Questa è la verità che pochi hanno il coraggio di dire. Capito, Parenzo? Ma è il presidente della Camera, ma che dice? Ma scusi, Borghezio, si fermi un attimo. Borghezio, si fermi un secondo. Va bene, questo l'abbiamo capito. Però voglio capire una cosa, Borghezio. Il fatto che sia diventata presidente della Camera è un modo, a questo punto, diciamo, i clandestini saranno attirati, no? L'Italia diventa una sorta di ricettacolo. Cioè, l'unico aspetto positivo è che non sarà più a spese dell'ONU. Ma della Camera dei Deputati. Che positivo. I signori grillini che l'hanno votata. Non l'hanno votata i grillini. Diciamo i signori parlamentari che l'hanno votata. Voglio capire una cosa. C'è il pericolo adesso. C'è il pericolo che, siccome una persona così come ce l'hai descritta, diventa presidente della Camera, no? Il pericolo di un arrivo in massa di clandestini in Italia? Sì, noi signori Grillo l'hanno votata, ma si sono alzati i piedi per applaudirla. Vabbè, si sono riuniti al coro ipocrita di tutti quelli che dicono abbiamo fatto una grande nomina. Allora, avete fatto una grande brutta figura, perché noi abbiamo bisogno di gente che venga dal mondo del lavoro, che conosca i problemi reali del paese. Vabbè, scusami un attimo Mario, ma l'idea che la Lega possa votare al Senato, come si dice, la fiducia a Bersani, ti fa rabbrividire oppure non te ne frega niente? Ma bisogna vedere intanto quale sarà il programma di questo eventuale governo Bersani. Comunque io vedo in tutto questo un grande patalacchio, una grande confusione, e sinceramente... Ma tu lo voteresti? Lo voteresti la fiducia al governo Bersani? Beh, io sono sempre stato disciplinato, però diciamo... con tutto il rispetto per la persona dell'onorevole Bersani, se si potesse evitare di sostenere delle pagliacciate, secondo me si fa sempre bella figura. Sarebbe meglio. Grazie a Mario Borghezio, che si è espresso in termini molto gentili nei confronti del presidente della Camera, del nuovo presidente della Camera, no Parenzo? È la terza carica dello Stato, adesso dire che gli attire i clandestini che è una fancazzista, mi pare davvero una cosa... Sai chi sembri? Cioè, sembra che stai facendo l'imitazione di qualcuno, forse boss addirittura. Ci facessero vedere i loro bilanci, questi fancazzisti dell'ONU, ci facessero vedere i bilanci della FAO, eccetera, e l'opinione pubblica potrebbe considerare bene dove vanno a finire. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ci sono delle parole dolci, delle parole molto... come dire, miele, una dedica a questa giornata particolare in cui la mia spalla, il mio, non dico aiutante di campo, ma insomma il mio coéquipier, come si direbbe in francese, è affetto da una grave, no grave no, ma insomma da un attacco alla gola, da un attacco alla voce, in condizioni molto molto precarie. Però ho una canzone per te. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Beh, che dedica che ti ho fatto! Che dedica che ti ho fatto! La persona che stava cantando è una persona serissima, dopo vi rivelerò tutto, una persona serissima che è più bravo a cantare che a scrivere, dico io, più bravo a cantare che a scrivere, assolutamente, non capisco perché nella sua vita non si è dedicata a questa cosa, una persona seria, con delle giacche bellissime, sempre vestito bene, rappresenta questa azienda in un posto che dopo vi dirò, è una cosa pazzesca. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Berlusconi: se il centrosinistra mette le mani anche sul Quirinale, daremo battaglia nelle piazze. Nuovi attacchi ai magistrati. Bersani: avanti col programma, pronta una nuova legge sul conflitto di interessi. Incompatibile anche chi ha azioni o quote di società. Grillo cede alle proteste sul web e frena sui dissidenti. Sono caduti in una trappola in buona fede, ma in gioco c'è il rispetto delle regole. I senatori ribelli difendono la scelta fatta al Senato. I gruppi rinviano ogni decisione sulle espulsioni. Serve comunque la ratifica online. La tassa sui conti correnti imposta a Cipro dall'Europa spaventa le borse. Banche chiuse fino a giovedì. Protesta la Russia, che ha investito miliardi nell'isola. In arrivo 1 milione di pellegrini e i leader di tutto il mondo per l'inizio del pontificato. L'incontro con la presidente argentina. Il Papa è consapevole che deve cambiare molte cose. E col TG3 negli ospedali psichiatrici giudiziari. Dovrebbero chiudere a fine mese per le pessime condizioni, ma senza strutture alternative si va alla proroga. Dentro il mio giardino Cioè, ma vi pare possibile che esce fuori che durante la discussione se dare o no il voto a Grasso, che è diventata una questione pazzesca all'interno del Movimento 5 Stelle, qualcuno ha pianto? Parenzo, qualcuno ha pianto? Ha pianto? Ma di cosa parliamo? Ha pianto? Ma che succede? Per forza. Per forza che? La politica è anche questo, no? Grillo Scientology, Berlusconi ti ha copiato la battuta, eh? Grillo Scientology, senti. C'è una setta che mi ricorda molto Scientology, che non dovrebbe essere nemmeno ammessa per le regole che non ha o che ha nell'ambito dei partiti democratici, e che è lì a rappresentare una protesta per certi versi valida, ma senza nessuna prospettiva di soluzioni. De Girolamo, Nunzia De Girolamo, che dice: non guarderò mai più l'Annunziata. Che esagerazione, un'opinione. Non ha dato, poi ha detto: siete impresentabili perché avete fatto quella manifestazione. Sì, d'accordo, si poteva usare un altro termine, lo si poteva usare in maniera diversa, magari indirettamente attribuendolo agli altri. Se l'è fatto scappare in un moto di sincerità. D'altra parte non è un mistero, insomma, la provenienza culturale e politica dell'Annunziata è rivendicata anche, per cui dov'è il problema? Cioè, non capisco francamente dov'è il problema. Alfano ha risposto, lei si è anche scusata, secondo me non doveva farlo lì in diretta, questa è la mia opinione, se uno è, come dire, sicuro di quello che ha detto. E comunque, De Girolamo. Non è possibile che Bersani, al ragionevole discorso che ha fatto ieri Alfano dall'Annunziata, che dopo quella battuta ritengo inguardabile, perché la battuta sugli impresentabili, allora l'Annunziata è una donna che dovrebbe condurre l'intervista con l'equilibrio a mezz'ora, che detto, fa lei, però noi ad Alfano voi siete impresentabili, Alfano si è incommentabile ed inguardabile, io non guarderò mai più quella trasmissione. Noi abbiamo però detto questo, però finisco. Diciamo che l'Annunziata se ne farà una ragione, detto con tutto rispetto, per carità, però adesso non è che può scattare lo sciopero del centrodestra, degli ascoltatori di centrodestra per l'Annunziata. Dai, su, non esageriamo. Ancora più ascolti la prossima volta. Oggi, tra l'altro, il direttore di Rai 3, Vianello, ha chiesto anche scuse in parte per questa. Ma è normale che poi i dirigenti si scusino, no? Perché poi inizia questa canea politica su una parola impresentabile che è un giudizio politico. Vabbè. Ma che mondo è questo? Non si può dire una parola in più. Che lo chiamano insulto, ma non è un insulto, è una valutazione politica secondo l'Annunziata. Se ne poteva fare a meno, sì, però è scappata, quello ha risposto, punto. È un dato di fatto, diciamo. Mamma mia, come stai messo male, figlio mio. È un dato di fatto, lo dicono in tutta Europa, quindi chi se ne frega. Succede a Radio DJ, a Ciao Belli, senti come ci pigliano per il culo. Sì, buongiorno. Allora, è la Zanzara Radio 24? Sì. Sono Giambattista De Monti. No. Siamo da Cagliari, vicino Cagliari, Fuji. Ma non siamo Radio 24. Allora, dottor Cruciani, innanzitutto grazie, perché la Zanzara è il più bel programma radiofonico. Sì, perché concordiamo. Sì. Come litigate voi, non litiga nessuno. Io, a sentire voi che litigate, sì, torno a casa, non devo più picchiare mia moglie. Ci scusi, ma questa minchia, è una volta, l'ammazzavo di botte. Sì, ora che sento voi, le porto i mazzi di mimose anche a Natale. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Ah, continua, no? Che fate? Mettete un pezzo? Mettetemelo tutto, no? Parenzo, sì, ma invece di continuare a dire no, lei Parenzo, è anche merito suo, è inutile che se la ridacchia. Beh, Parenzo, ma perché non va mai in studio da Cruciani? Sta al telefono dal gabinetto di casa, che cazzo? Non lo sappiamo, soffre di colite, Parenzo. Ma che mondo è questo? Ma che mondo? La ringrazio, dottor Cruciani, grazie, sì, dottor Parenzo, grazie. Ma non siamo dottori, non né Cruciani, siamo né dei dottori né Cruciani né Radio 24. Non siete. È Radio DJ questa. È matta cazzo, ma potevate dirlo prima. Ho parlato 20 minuti, ma andate a fanculo, chiamate subito il dottor Forbice su Radio 1. Ma guarda te, la gente politicizzata in Italia, serva degli editori catocomunisti, cazzo. Mi accendo la macchina e me ne vado. Eccoci qua, che bella presa per il culo, Franco da Torino, buonasera. Buonasera a te. Vai, senti vai. Una cosa, ho sentito prima. Ma senti che, ma perché mi devi dare del tu? Perché? Perché tu sei mamma di tutti a cagare, quindi. E vabbè, dammi del tu, su, dammi del tu, dai, che stasera sono in buona, dai, stasera sono in buona. Un po' pesantina la cosa, ho fatto bene. Ma chi? Chi ha fatto bene? L'annunziata, anche se il termine è un po' pesantino. Beh, ha fatto bene, c'è una parte d'Italia che non è d'accordo nell'essere definita impresentabile, ovvio. Abbia pazienza. Ovvio, no, ma è ovvio che è impresentabile. Ma scusa, ha fatto il zoppino per tre mesi? Eh? Ha fatto un po' il zoppino per tre mesi, faccio primare, non le faccio... il giochino ha fatto. Vabbè, non è che è per quello che uno è impresentabile, perché no, ha fatto il giochino sulle primarie. In questo senso. Cioè, perché è impresentabile secondo te Berlusconi? Che ora che vado in pensione, voglio mandare in pensione alla gente a 50 anni così, gli mandi in pensione che Berlusconi. Va bene, Franco. Luigi da Grosseto, buonasera. Buonasera, buonasera. Volevo innanzitutto vi saluto perché sono un vostro ascoltatore. E vabbè, Luigi, con i saluti che ci facciamo? E che ci facciamo con i saluti? La pasta? No, che facciamo? Li facciamo. Ci facciamo il condimento stasera con i saluti. Esatto, dai. Fanno sempre bene. Ma veramente no, fanno male, dire però. Che la annunziata ieri, sì, e insomma prima di dire che una parte degli italiani è impresentabile perché vota Berlusconi o il centrodestra, si dovrebbe specchiare. Perché solo il suo aspetto fisico. Ma lei la butta sull'aspetto fisico, su Luigi? Perché per lei che cosa? Perché è impresentabile, orrenda, è brutta. Che c'ha? È brutta. È brutta. Vabbè, Luigi, Grosseto sentenzia, l'ha annunziata, è brutta. Avanti, su. No, è racchia, è pacchiana. È racchia e pacchiana. È peccato che Parenzo non può rispondere stasera, perché non sta al cesso, come dicono a Ciao Belli stasera, ma sta sul letto con l'aspirina, non so. Cerca di recuperare, se no un disastro, amico mio. Tachipirina. Ma che tachipirina? Qui ci vuole qualcosa per la gola, per la voce. Come facciamo a condurre questa trasmissione? Vabbè, che devi fare? Sospira. No, però vabbè, stai là, stai tranquillo. Parla poco. Che cos'è questa roba? Cos'è sto rumore? Ma dove eri? Scusa, al bagno a fare il catetere? Dove eri? Dove sei? A fare gli sciacqui, sta facendo gli sciacqui. Mamma mia, che disastro. Live, tutto in diretta, gli sciacqui, che stai facendo? Il bidet, che stai facendo? Sì. Il bidet o gli sciacqui? Le sciacqua la bocca. Gli sciacqui, mamma mia, come stai combinato. Ma che sono le campane a morto? Ma chi è questo? Non so, le campane ti stanno portando via col carro funebre, che è successo? Di cattivo gusto, però vabbè. La Merkel, quando è successo in Germania, l'ha fatto. Perché Bersani non ha il coraggio di fare un gesto di questo genere? Forse perché voi siete impresentabili, ma voi vi rendete scusi, conto? Scusi, ma scusi, allora adesso mi faccia ma scusi, dire a me. Ma scusi. Zanzare, dietro le in montagna, in collina, in campagna. Si facevano inutili presidenti. Si è aperta una mostra di Tiziano a Roma alle Scuderie del Quirinale. Sarebbe bene che andassero a vedere Grillini e altri ignoranti sparsi. Ma perché ignoranti? Sono tutti ignoranti questi Grillini. Sono preoccupati. Tu hai mai sentito qualcuno di questi pronunciare il nome di Tiziano? A Grillo, se hai mai andato a vedere un quadro di Tiziano, ti dirà che non sa chi sia. Scambierà per Tiziano Ferro. Però, non ha alternativa. Però non è obbligatorio vedere un quadro di Tiziano. È anche importante che noi abbiamo vicini al governo o in rapporto con il presidente del Senato delle personalità la cui ignoranza è così abissale. Vabbè, adesso parliamo del quadro. Ho pur tanca la mia donna in sci per pala riposare. Soltanto che com'è il rapporto con i suoi eletti di Grillo? Sì. Come quello di Boncompagni con Ambrangiolini. Fate così. L'amore E a proposito di ignoranza, le Iene e il Parlamento, ormai un classico. Iniziamo dalla Grillina, la stessa che non ha voluto stringere la mano alla Bindi, no Parenzo? Quella che ha incrociato la Bindi si è fatta avanti, c'era un gruppo di Grillini, e beh, cominciamo a conoscerci, e lei è passata avanti. È pericolosissima questa. Beh, è pericolosissima, adesso, perché non te dà la mano è pericolosissima. È gente molto pericolosa, perché istiga la violenza. Istiga la violenza perché? Perché non stringe la mano alla Bindi? Istiga la violenza. Vabbè, non puoi parlare, non puoi parlare, stai tranquilla. Sentiamo questa qua, che si chiama Rostellato, che non sa che cos'è la BCE. Eh beh, ma non sa nemmeno, come dire, no, l'acronimo, cioè non sa decrittare, non sa che è banca. Poi uno non possa, può anche non sapere i poteri, tutto quello che vuoi. Certo, non sapere che cos'è la BCE fa un po' impressione o no? Beh, un po' sì, BCE lascia i tassi invariati, ripresa graduale del 2013. Chi è questa BCE? La banca della Comunità Europea. Della Comunità Europea? La banca europea, la banca... Adesso mi chiedi proprio cosa significa BCE. BCE, che può essere? Che domanda. Banca? Sì. Sicuro. C? Sì, sì. C tra... Banca... No, dai, non chiedermi queste cose, no. Sono proprio fusa, cioè. Hai ragione. Sarei pure fusa, però non è che bisogna essere, cioè, particolarmente in forma per capire che cosa significa, per sapere cosa significa BCE. Sono fusa, come quei grillini che dicono in queste ore ci hanno ingannato, no? È stata una trappola. Ma che trappola? Sapevi i due nomi, uno era Boldrini, l'altro era Grasso, che trappola c'è stata? Cioè, non è che ti hanno imposto di votare qualcosa, hai fatto il melodramma perché la gente in una riunione si è messa pure a piangere. Ma quale trappola? Ci hanno ingannato chi? Chi è che ti ha ingannato? Hanno fatto una mossa politica, e la politica bellezza, no? Sempre la Rostellato che non sa chi è Draghi, senti. Draghi chi è? Chi può essere sto Draghi? Draghi è stato il nostro, come si chiama? Il presidente, no, il presidente, scusa, della Banca d'Italia. Adesso non mi viene la parola. Che fa ora sto Draghi, secondo te? Vuole farsi candidare per il Presidente della Repubblica? Dice? Rispetto alla BCE, chi può essere Draghi? Rispetto alla BCE? Non lo so, posso andare? Sì, certo. Buona giornata, eh? Poi Grillo ha polemizzato perché Repubblica ha messo solamente il video di questa qua e non gli altri. E vabbè, d'accordo. Poi successivamente Repubblica si è corretta e ha messo sul suo sito anche gli altri, il video integrale delle Iene, tra cui c'erano alcuni esponenti del PD e del PDL. Io becco il più interessante, caro Parenzo, che è per esempio Sciascia, no? Il mitico Sciascia del PDL, no? Che non c'entra con Sciascia Leonardo. No, beh, certamente no. È Sciascia, no. Quello della, no, della, di Mediaset, insomma, di Fininvest, no? Quello condannato, eccetera, eccetera. Comunque, sentiamo. In 5 film il mosaico russo, dalla perestroica a Putin, ecco, per i ragazzi ricordiamo chi fu, diciamo, il promotore di... Beh, qui ce ne sono tanti, ce ne sono, giusto? Chi era allora, diciamo, dottore, il presidente? Chi era allora, diciamo, che portava avanti... Il nome non me lo ricordo, ricordo, ma era quel signore Grasso, eccetera, eccetera, che... Non ho capito, il signore Grasso? Sì, coi signori... coi capelli bianchi. Grasso coi capelli bianchi, ma come si chiamava? Non me lo ricordo. Vabbè. La perestroica. Ma c'è un altro del Partito Democratico che si chiama Crimi, siete sicuri? Crimi? Vabbè, così c'era scritto, eh. Sentitelo spettacolare. La perestroica, che cos'era? Che cos'è? La perestroica era un evento che è successo durante il regime russo, no? Non mi ricordo. Che tipo di evento fu? Adesso non mi ricordo, sinceramente. Più o meno cosa è accaduto durante la perestroica? Intanto si ricorda chi fu a portare avanti la perestroica? Mi pare che sia successo durante il regime stalinista. Stalinista, quindi Stalin ha portato avanti la perestroica? Di sì. Che voleva fare con questa perestroica? Penso che sia un evento negativo, insomma, da quello che mi ricordo. Quindi Stalin con la perestroica ha voluto... Non lo so, non mi spiace, ma... Amici miei, la perestroica è un elemento negativo, l'ha portata Stalin! Ma dai, su! Ma altro che ripetizione, ma qui andiamo di peggio in peggio! Cioè, forse era meglio l'altro Parlamento! Ma neanche sapere che quel signore lì aveva una voglia di Coca-Cola sulla te, in fronte, il leader della perestroica. Vabbè, ma che c'entra, scusa? Non sa niente questa gente qui. Giancarlo da Milano, 800 24 00 24. Tu devi calibrare bene le parole, caro padre, come facevo disarmante. Io quando stavo male. Calibra bene le parole. Disarmante. Ma dove sei? A letto adesso? Sei a letto? Sì. Sei a letto? Io voglio dire solo che sono delle teste di cazzo e sono contento. Chi sono delle teste di cazzo? Questi che vedo che non sanno un cazzo, sono delle teste di cazzo. Ecco, questo mi piace da dire. Mi piace dirlo adesso. Giancarlo! Sì, buonasera. Pronto? Vada, Giancarlo, su. Dunque, io penso che... Dunque, che Parenza ha bisogno di una supposta di penetrone. Una supposta penetrone per il raffreddore, fa bene. Come si chiama la supposta? Penetrone. Ma no, ma non capisco, mi dica di che cosa è, che sostanza è? È a base di penetrone. Penetrone? Ah, ho capito, vabbè, mamma mia. Veramente stavo dicendo per Ferrara, ecco. Sì, per Ferrara, sì, per Ferrara, sì. Ecco, Ferrara non può parlare così dei gridini, sono stati eletti del popolo, cioè lui è la palla di grasso questo qua, che continua ad andare, prima era a sinistra, poi è passato a destra, Berlusconi. Ne ha fatti tutti i colori questo qua. E continua a parlare, di avere le sue cavolate. E nessuno gli dà retta, lui continua a essere lì. Siamo stufi sta gente, siamo stufi. Buonasera. Vabbè. Massimiliano da Milano. Pronto? Vada. Pronto? Massimiliano, dica, veloce. Sì, eccola, buonasera. Le devo dare del tuo o del lei? Ma faccia come vuole, su, veloce. Allora, del lei. Due cosine veloci. Uno è che, come lei ha detto venerdì, chiamavo per quello, stanno un po' venendo a noia questi grillini. Cioè, mi sembra che abbiano perso tutta questa forza della novità e forse, come diceva lei all'inizio, il fatto che parlino è deleterio, dovrebbero lasciar parlare solo il loro portavoce, che mi sembra l'unico che sia capace di stare davanti alle telecamere. E quindi forse fareste meglio non invitarli più, sembra. Sì, però scusi, le devo dire una cosa. Lo stesso portavoce però al Senato, per esempio, portavoce, cioè lei dice il capogruppo? No, Grillo non si è definito portavoce del movimento. Ah, lei dice dovrebbe parlare solo Grillo, ma è difficile, è difficile. Sono gli altri fanno 160 persone, 163 persone. Però fanno solo danni quando parlano. Ma va, dipende, poi alcuni fanno danni, altri no. Ma insomma, la democrazia non è che può essere tutto. Può essere tutto. Mi lascia ancora 30 secondi, però ci tenevo a dirle una cosa. È una settimana che volevo dirle. Sì. Io sono stato colpito dal fatto che questo grande Papa è riuscito a zittirla. Per la prima volta in non so quanti anni che io sento la zanzara. E vabbè, è successo. Questo secondo me è un elemento straordinario. Ma non ha zittito nessuno. Cioè... Come no? Si è fermato, almeno di fronte al Papa si è fermato. Ci siamo fermati. Buono. Vabbè, grazie. Allora, questo è buono. È buono per lei. Allora, abbiamo con noi, caro Parenzo, che sei malato e dunque non ti potrai scatenare, il nuovo... coordinatore della comunicazione al Senato per il Movimento 5 Stelle, Claudio Messora, buonasera. Buonasera. Come stai? Ciao. Bene. Ma sei già a Roma su piazza oppure sei... No, sono ancora a casa, a Milano. Come fate? Tranquillo, tutto? Tranquillo. Come fate? Tutto, come dice Parenzo, via computer oppure andrai sul tutto pezzo? Via rete, tutto online, no, siamo una setta, siamo tutto online. Vabbè, non mi dire che non andrai a Roma, No, ci andrò a Roma, quando ci saranno i soldi, tu considera che non c'è una lira, perché il movimento non prende rimborsi elettorali, quindi non se li può spendere. Le banche non fanno i fidi, perché se fosse il PD gli avrebbero già dato 3 milioni di euro al Movimento 5 Stelle, le danno niente, quindi bisogna aspettare i soldi per i gruppi di comunicazione che arriveranno magari dopo il 20 di aprile oppure non e so, da quel momento in poi tu avrai uno stipendio, diciamo? Da quel momento in poi avrò probabilmente uno stipendio, me lo auguro, sì. Che però sarà soggetto agli stessi limiti che hanno i parlamentari, quindi cioè al massimo sarà 2005? Beh, netti, sì, al massimo sarà quello. Non so quanto perché francamente non ho chiesto. Però in ogni sì. caso ci vado a rimettere. Però quindi guadagnerò come un dipendente, perché ci devi dimettere? Come un deputato, giusto? Perché sì, esatto, ma al massimo come un deputato. Al massimo come un deputato. Per quanto riguarda lo stipendio e non i rimborsi, eccetera. Perché dici che ci andrei a rimettere? Scusami, vabbè, perché con il blog al momento, dopo anni e anni di gavetta, tra un po' di pubblicità, poi le interviste in crowdfunding, quello che si riesce a fare, insomma, riesco a raccimolare poi un gruzzoletto che è un po' di più di questo, quindi ci andrò a rimettere. Però, e perché vabbè. Lo fai, dici? Cioè, perché devi abbandonare? E lo fai per passione, perché sei convinto? Per passione, perché tu pensa a impiegare 5 anni della tua vita a cercare di capire cosa succede nel palazzo, sì. E poi ti propongo di entrarci e andare a vedere con i tuoi occhi, per un blogger è il massimo. Però lo sai che devo dire, quando Parenzo, qualcuno ci dice al telefono no, io lo faccio per passione, ci rimetto con la politica eccetera, cioè, io di solito non ci credo, però conoscendo un po' Claudio e alcune persone che sono intorno a Claudio, soprattutto io un po' ci credo. Poi ovviamente uno fa anche un investimento su se stesso, fa un investimento. Me, chi lo fa, chi guadagna, chi lavora rimettendoci, detto con rispetto e affetto, non è un pirla. È un pirla, è un vero, pirla. Infatti sono un pirla. Cioè, per Parenzo dovresti fare i soldi, capito? Per Parenzo dovresti fare i quattrini. Ma se volessi fare i soldi non avrei seguito le vicende del Movimento 5 Stelle, perché i soldi li tolgono. Senti una cosa, chi ti ha chiamato per questa cosa? Raccontaci bene, cioè, la prima telefonata da chi ti è arrivata? Da Casaleggio? Casaleggio, ovviamente, Casaleggio. Perché la parte della struttura di comunicazione che sta in questo codice di comportamento, ed era chiara fino da mesi, insomma, c'era scritto chiaramente che era qualche cosa che afferiva alle decisioni per quanto riguarda l'identificazione delle competenze eccetera di Casaleggio e Grillo. Quindi non è una novità o qualcosa che è stato sottratto alla volontà popolare. Beh, è proprio scritto, è stato notato. Beh, però queste sono nomine che non erano previste in realtà, cioè, per cui la mia idea è questa. Ovviamente io faccio il giornalista come te, tu hai adesso un altro ruolo. Il mio ruolo è quello di cercare di decrittare quello che accade, e secondo me è successo. Ma io non mi oppongo. No, ma infatti secondo me c'è stata una sorta di cioè mandiamo due persone a gestire una situazione che può diventare esplosiva per il movimento, no? No, perché cioè sicuramente sì, però non è una novità un fungo stanotte. Allora, non è una novità nata come un fungo stanotte, è una cosa che da 2 mesi in rete su questo codice, è una struttura che bisognava fare. Si aspettava che arrivassero i soldi destinati ai gruppi per farla, sì. Però evidentemente, come dici tu, hai colto il degenerarsi della situazione, tant'è vero che a me avevano proposto di fare questo lavoro per la Camera, sì. Però visto che c'è questo casino che è nato al Senato, abbiamo detto anticipiamo i tempi non ci sono i soldi, quindi adesso è tutto pro bono. Ma si può dire che è una sorta di che tu hai un compito non solo di coordinare la comunicazione, ma anche politico? Diciamo la verità. No, in che senso politico? Cioè di cinghia di trasmissione da Grillo e Casaleggio ai gruppi. È quello che voleva Becchi, la cinghia di trasmissione. Lui pensava a qualcos'altro. Becchi dice è difficile per questi ragazzi muoversi lì da soli, se poi Grillo, che è il capo politico, come vuole la legge elettorale, non è lì con loro. Quindi ci vuole una cinghia di trasmissione. Questo è un pensiero di Becchi, che ha pubblicato sul mio blog e non corrisponde con... Tant'è vero che molti commenti a quel post dicevano la cinghia di trasmissione sarà il portale online dove tutti gli eletti potranno decidere e votare. Questa sarà la vera cinghia di trasmissione. Questo mio ruolo è un ruolo di coordinamento sulla comunicazione, per cui magari dai consigli oppure organizzi il gruppo che ha tutte le telecamere, lavorano su YouTube, postano i video, ci sarà qualcuno addetto all'ufficio stampa tradizionale. D'accordo, però non è che fai l'ufficio stampa, dai, cioè, c'è anche non è che fai quello che... No, il ruolo politico, non so come definirlo. Ci sarà anche fare... un ruolo politico? No, non è un ruolo politico, è quel ruolo di cercare di capire che cosa succede lì dentro. Per cui se ci sono, non so, 10 senatori che pensano in un modo, altri 40 che pensano in un altro, tu tiri le somme, fai la sintesi, fai l'interfaccia, lo riferisci. E a loro cerchi di far capire, magari se fanno, comunica in un certo modo, dici guarda, se la dici così, siccome sai, tutta gente che non ha grande esperienza, se la dici così è una pirlata, ma che prova a dirla in quest'altra maniera, che è uguale, però si capisce meglio. Però, devi riferire a Grillo e Casaleggio quello che succede. Sì, devo riferire, perché loro devono scrivere anche sul blog, devono avere delle fonti attendibili, perché non è che possono interfacciarsi con tutti. Vabbè, quello che dice Becchi, è la cinghia di trasmissione, cioè sei l'interfaccia di Grillo e Casaleggio con i gruppi parlamentari. No, perché la cinghia di trasmissione è diverso, cioè quello che dice Becchi è nel caso del voto a Grasso l'altro giorno non sapevano cosa fare. La cinghia di trasmissione è uno che prende, secondo Becchi, l'ordine da Grillo. Ma è vero che non sapevano cosa fare? L'ordine da Grillo e lo riferisce ai parlamentari. Ok, tu ci stai dicendo non prendo il mio compito, è il contrario, cioè prendere l'umore dei senatori, dei parlamentari e riferirlo al di fuori, cioè che non è prendere dall'alto e portare in basso, prendere dal basso e portare in alto. Vabbè, ci sarà anche l'altra via, però secondo me funzionerà anche al contrario. Però vabbè, questo lo saprò dire fra un po', quando avrò cominciato a farlo. Senti, però allora, tu mi stai dicendo però una cosa interessante, che su Grasso non sapevano che fare. Su Grasso non sapevano che fare. Ci sono alcuni senatori che si sono spaventati perché sono poi arrivavano dal territorio siciliano e dicono: come facciamo a tornare indietro se per caso magari eleggono Schifani perché noi non abbiamo votato Grasso, capito? Ma che è un ragionamento comprensibile, ci sta anche. Il punto lì non è che loro hanno votato Grasso, se tu senti anche Casaleggio ti dice: ma per me potevano votare chi gli pare perché loro hanno libertà totale. Certo. Il problema è che hanno firmato un codice che rappresenta la responsabilità politica. Assolutamente, verso la base, non è responsabilità penale. È quello che dico anch'io, è quello che dico anch'io. L'elettorato, no, cioè tu ti fai eleggere in nome di una responsabilità politica e poi devi rispondere. E questo codice dice: voi prendete le decisioni a maggioranza, dopodiché scornatevi pure, però prendete la maggioranza, quando andate in aula votate compatti. E loro hanno disatteso a questa cosa. E perché non li cacciate? Ma a parte che non si possono cacciare le persone. Sì, lo so, c'è una procedura, deve decidere il gruppo e poi la rete, va bene, quindi d'accordo. Non è che si caccia, però perché non si avvia questa procedura, dato che hanno violato una cosa fondamentale? Perché lo decidono i parlamentari. Ma secondo te? Ma secondo... Mi sembra che non... Ma perché siamo all'inizio, questi sono ragazzi, siamo sono appena arrivati. Sono può capitare che ci sia una... Sono ragazzi. Può capitare che ci sia un'incomprensione o comunque un momento delicato. Poi Bersani è stato bravo, no? A mettere una figura che non si poteva non votare. C'è dubbio. Io, tu chi avresti votato? Chi avresti votato? Scheda bianca? C'è un ballottaggio. Allora, Crimi aveva detto: qui abbiamo cercato di evitare che vincesse Schifani. Per me, che ragiono semplicemente, se vuoi evitare che vinca Schifani, voti Grasso. Quindi avrei votato Grasso. Tu avresti votato perché, Grasso? Perché non è un appoggio, non è una fiducia. Ma tu, senatore, senatore Messora, che cosa avresti votato? Grasso o no? Avrei votato come da codice di comportamento. Quindi cioè scheda bianca. Avrei ottenuto la maggioranza. Se avessero detto scheda bianca avrei ottemperato il mio obbligo. Però tu nella votazione per decidere come votare. Ma io non sono per stare... Però questa è una posizione personale, non parlo di nessuno. No, certo. Personalmente io non sono una persona che ama non prendersi delle responsabilità. Se non voglio votare Schifani, voto Grasso. Per cui avresti votato per Grasso che Schifani, per il senso del movimento. Senza per questo configurare un appoggio di nessun tipo. No, ma ho capito. Tu personalmente avresti votato Grasso? Se fossi... Personalmente sì. Avresti votato Grasso. Perché, vedi, Parenzo, però, che la realtà è molto più... È molto più complessa di quello che uno può immaginare, no? C'è un codice, è vero. Dopodiché. Che non vale niente. No, non è che non vale niente. In questo non caso vale nel senso che decisione presa a maggioranza. Che in questo caso decisione presa a maggioranza che alcuni hanno disatteso. Poi lui dice: è la prima volta. Questo, però, come dire, avete dato un avvertimento a queste persone, sì o no? Io non ho dato nessun avvertimento. Grillo ha scritto un post e questo post parla chiaro. Si può dire che è l'ultima devono volta? Devono assumersi le proprie responsabilità. È chiaro, li ha avvisati, gli ha detto: ragazzi, voi avete firmato un codice, adesso questa è una responsabilità per i vostri elettori. Cosa fate? La disattendete così? Cioè ci rimettete la faccia? C'è un ultimo avvertimento. È un ultimo avvertimento. Non è una canna puntata, anche perché ci sono delle procedure, come tu hai detto giustamente prima. Però sicuramente è un avvertimento forte. Cioè, la legge elettorale stabilisce che ci sia un capo politico. Ok, al di là del fatto che Grillo faccio il garante, il padrino, sì, e tutto sì. Quanto. Grillo fa il capo politico, quindi in questo senso Becchi richiama la figura del capo politico, da quello che purtroppo nelle istituzioni ci entri e firmi dei contratti. Cioè dunque Grillo è il capo politico. Grillo è il capo politico. E lo è per forza, perché lo dice la legge elettorale. Il Porcellum prevede che per i movimenti politici ci sia la figura del capo politico, interna, esterna. Quindi non ha deciso Grillo, cioè poi sarebbe stato comunque un leader, per carità di Dio, ma è una figura del garante, però è il capo politico. Non lo dice ma alla la fine quali sono quelli che hanno votato? Quanti sono quelli che hanno votato per Grasso? Credo 5 o 6. Ma secondo te dovrebbero dirlo tutti pubblicamente? Quello sì. Ma l'hanno detto, secondo me. Beh, alcuni detto, sì, cioè, altri mancano dei voti, però in tutto sono ma stati... dovrebbero dirlo come responsabile. Allora, la legge non li obbliga. C'è l'articolo 67, non c'è il vincolo di mandato, lo però sappiamo. Per il vostro però, regolamento sì. Per il regolamento politico del Movimento 5 Stelle dovrebbero assumersi questa responsabilità di non avere disatteso il patto elettorale con i loro elettori. Comunque tu mi stai dicendo è la prima volta, non si passerà sicuramente all'espulsione, diciamo la verità. Cioè, io credo di no, nel senso che mi pare di aver letto delle dichiarazioni anche dei parlamentari, perché la decisione se chi richiedere l'espulsione di alcuni parlamentari la prendono collegialmente tutte e due le camere. Mi pare di aver letto delle dichiarazioni che vanno nel senso del no, vabbè, adesso ho capito, ma il capo, col capo politico ci hai parlato di questo e vuole no, andare no, Grillo io non lo sento, non l'ho mai sentito e continuo a non sentirlo. Ho parlato con Casaleggio, non di questo ma è incazzato, è incazzato Casaleggio per questo che è successo? No, Casaleggio ha detto semplicemente: questi hanno firmato un patto e dobbiamo attenersi a questo. Dice Casaleggio: per me potevano pure votare Grasso, sì, potevano no, pure capito, appendersi ai lampadari del Senato, bastava che lo votassero a maggioranza. Questo è il senso. È così. Allora abbiamo la pubblicità, poi ultima domanda con ultime domande con Claudio Messora, nominato oggi consulente di comunicazione per il Movimento 5 Stelle al Senato. Sono curioso di sapere da Messora cosa ne pensa di quel deputato, che è poi lo stesso, che si chiama Lo Stellato, magari non la conosceva, che non voleva stringere la mano alla Bindi. Ha sbagliato secondo te, Claudio? Ma io credo di sì, nel senso che io non sono familiare con tutti questi atteggiamenti un po' caioli, cioè, credo che siano errori anche a livello di comunicazione. Sì, sì. Ci sono delle figure politiche che possono essere criticabili quanto si vuole, però sul piano personale credo che... La mano si stringe anche ai nemici, no? Alla fine... è la stessa che non sapeva che cos'era la BCE, Draghi, presidente della banca di della... Ma insomma, sì, governatore della banca centrale, come quando dissero che nel consiglio comunale emiliano qualcuno si era spostato dalla Salsi e aveva preso le distanze. Non so se fosse vero, ma se fosse vero, secondo me sono cose che non stanno nel cielo né in terra. Cioè dovrebbe fare un corso, no? Ma a parte questo, cioè sulla questione che non sapeva che cos'era la BCE, eccetera. Ma chi, la Bindi, non sapeva cos'era la BCE? No, l'hanno stellato stessa, le Iene, poi non l'hai seguito forse te questa cosa. No, non l'ho seguito. No, non è, poi ti devi occupare dei senatori, però ieri è stata intercettata dalla nobile delle Iene e non sapeva che cos'era la BCE e non sapeva nemmeno il ruolo di Draghi, che mi pare un po'... Insomma, sicuramente non è... Non è una bella figura. Non è una bella figura. Ricordo, per par condicio, che sempre delle Iene ci sono dei servizi dove ci sono gli altri. I parlamentari non sapevano neanche che cosa avevano votato quando hanno votato il Fondo Salva Stati, Fiscal Compact... Ma nello stesso servizio c'erano anche dei parlamentari del PD e del PDL. Esatto, poi oggi purtroppo la Camera dei Deputati è composta dai rappresentanti del popolo, storicamente, e il popolo non sempre è addentro in tutte le questioni. Chi tradisce anche un solo punto di un accordo scritto potenzialmente può tradirli tutti. Sì. Per cui il fatto che questi abbiano, magari per così, per una questione di coscienza o per altri motivi, tradito un accordo scritto che prevedeva che le decisioni a maggioranza devono essere eseguite anche quando sei contrario, e io sono d'accordo su questo principio assolutamente, significa che è un precedente molto grave comunque, perché sai, se si fa passare il principio che si può tradire un accordo, e poi una volta è il caso di coscienza, un'altra volta sarà, cioè si può ripresentare anche col governo Bersani o no? Certo, tutto è possibile. Io sono molto militare, cioè secondo me se tu firmi un patto, un accordo, poi ti ci devi attenere. Cioè fosse per te parterebbero le espulsioni? No, non, io sono militare per quanto riguarda me stesso, no? Cioè la vedo così, cioè nel momento in cui firmo qualche cosa, costi quel che costi, vado fino in fuori. Al limite mi dimetto prima, se non sono d'accordo, dico basta, non mi va più, però me ne vado. Però una volta che firmi, secondo te sapevano quello che avevano firmato? Bah. Secondo me sì, poi non so, io non li conosco ancora. Domani ci sarà una riunione, cioè si confronteranno anche tutti i senatori e cercheranno di fare il punto di quello che è successo. E quindi domani pomeriggio sicuramente ne sapremo di più. Senti, un'ultima cosa: quei 15 uomini sulla cassa del morto di cui hai parlato, chi sono? Loro? Sì, sono questi qua, perché inizialmente non li conosco per nome, adesso guardi sul Fatto, su altri giornali li fanno. No, ma lo so i nomi, ma che significa 15 uomini sulla cassa del morto? No, è un vecchio adagio che mi divertiva, sai quella lì? Qual è? 15 uomini sulla cassa del morto, è un vecchio adagio dell'Isola del Tesoro di Stevenson. Adesso mi fai fare figuracce in diretta. Hai cantato benissimo, ma non capisco che significa, che sono sull'oro di un burrone, che stanno per... Sì, cioè la cassa del morto, il morto potrebbe essere rappresentato, si va anche un po' per metafore, quella è narrativa, e può essere rappresentato dal 5 Stelle, che se si comportano così possono trasformarlo presto in cadavere, ecco. Questa è la... E loro cantano ubriachi, ebri del loro successo personale, che si trasforma poi in una nave che va alla deriva, ecco, questa è la metafora. Pensavo che loro erano sull'orlo della morte pure loro, no? No, questo sulla cassa del morto. Senti, l'ultimissima cosa è questa: Bersani, tu hai detto, è stato furbo, è stato bravo, sì, ovviamente, ma se rifà, potrebbe avere provocato però un indurimento da questo punto di vista di Grillo e di Casaleggio, cioè insomma ha provocato una piccola crepa, adesso però basta, questo potrebbe essere paradossalmente più negativo di quello che uno può immaginare? Guarda, sicuramente è stata una mossa astuta, non credo che abbia provocato un indurimento. Il concetto è che nel corso degli anni Bersani, sia da Grillo per carità, che da Bersani sono arrivati però insulti di tutte le maniere, no? Anche da Grillo, infatti ho detto anche da Grillo. Sono cose che non si dimenticano, credo, a quei livelli non si dimenticano. Per cui governo Bersani mai. Io credo che non ci sia modo di ricucire sul governo Bersani, cioè non credo che questa cosa abbia peggiorato più di tanto quello che già era ai minimi. Ma voi la fiducia a un governo non di Bersani, ma di un'alta personalità con delle persone totalmente indipendenti, lo potreste votare in teoria? Allora, sullo statuto è scritto che non si fanno alleanze. La fiducia, se tu vai a vedere anche la definizione stessa, configura una responsabilità politica individuale e nominale, perché si vota nominalmente, a cui il parlamentare si confà e che deve durare nel tempo. Questa è la definizione di fiducia, no? È una responsabilità politica totale che il parlamentare si prende votando. E quindi più alleanza di questa, ti sto dicendo fai quello che vuoi, io ti supporto. Tra l'altro tu la puoi dare la fiducia, ma se la vuoi togliere è un casino, perché devi prefare la proposta, devi la mozione tre giorni, di sfiducia, devi avere la maggioranza, non ce l'avrai mai, perché una volta che dai la fiducia, poi il PD fa quello che fa, le leggi che vuole, se le fa votare dal PDL, hanno la maggioranza loro e tu il paese lo portano nella direzione che vogliono, e se lo portano in una direzione sbagliata la responsabilità ce l'hai tu. Dunque, fiducia mai? Fiducia mai, cioè, nemmeno un governo super partes, nemmeno un governo totalmente indipendente fuori dai partiti. Questo lo valuteranno i deputati e i senatori, non sono in grado ma non è escluso. Non lo so, Giuseppe, io queste cose non le so, cioè, non lo posso decidere io. Se ti potrei dare una risposta, ma sarebbe personale, cioè non avrebbe senso. No, fosse per te la fiducia a un governo totalmente strano dei partiti, che ne so, se Bersani impazzisce, lasciamo perdere un altro, impazzisce e prende il vostro programma, dice vabbè, facciamo il vostro programma, che succede? Gliela date la fiducia? No, non credo, Bersani no. Ma nemmeno in quel caso? Neanche se arriva in ginocchio sui ceci. No, se vuole fare il nostro programma, cioè il programma del Movimento 5 Stelle, lo fa fare il Movimento 5 Stelle, è inutile fare la fotocopia. No? Nemmeno se adotta il nostro programma. Vabbè, grazie, ciao Claudio, ciao. Parenzo, ci sei, scusami, non tocco in molto, però sai, la situazione tua è quella che è. Che stai facendo intanto? Stai facendo gli sciacqui, che stai facendo? Ti saluto adesso. No, aspetta, che saluti, aspetta, stai calmo, stai fermo, stai tranquillo. 10 minuti e ti saluto. Faccio io, vabbè, ho capito, ma adesso prendiamo provvedimenti, stai tranquillo. Danilo da Napoli, 800 24 00 24. Ecco qua, finalmente. Vale. Allora, volevo dire una cosa, come cast della trasmissione proporrei, oltre alle reiterate cose di Sgarbi, anche il battibecco tra Narella e quel Riccardo di Roma, che non è male, insomma, ogni tanto risentirla, e come consiglio, diciamo. Poi, niente, io volevo sapere anche una sua opinione, ma io non so questi grillini cosa vogliono fare, cioè la campagna elettorale è finita, Grillo ha detto determinate cose, che vorrebbe azzerare, insomma, abbattere i costi della politica, ma come vuole raggiungere questi scopi? Io non... poi parla di questi neoeletti, che il più scadente, il più ignorante è un ingegnere, ma dalle interviste che ho sentito prima, dalla BCE, che quella di prima non sapeva manco cosa fosse, non mi pare, insomma. Non sono proprio tutti ingegneri, dice lei, a parte che anche un ingegnere potrebbe non sapere chi è il capo della BCE, o potrebbe anche non sapere che cos'è la BCE, non è mica vabbè, scontato. Però comunque lei dice Grillo ha sempre detto portiamo in Parlamento gente con due palle così preparata, eccetera eccetera, e poi alla fine si scopre che uno non vuole dare la mano a Bindi, la stessa non sa che cos'è la BCE, non sa chi è Draghi e compagnia cantando, volendo, no? Che era la sua, la Marta, venerdì, giovedì, non mi ricordo, che è imbarazzata anche ad un paio di domande semplici, tipo l'adozione, matrimoni gay, non sapeva manco cosa rispondere, insomma, sembrano veramente... Ecco, io con Sgarbi non mi trovo quasi mai d'accordo, ma quando parla di atomi mi trovo perfettamente d'accordo. Atomi del corpo di Grillo. Ma poi, ripeto, una domanda che faccio a lei anche a Parco, che poi mi sembra Pannella con questa voce, volevo dire... Pannella, ci sei? Sì. Pannella, sei Pannella stasera? Sì. Sì. Vogliamo candidare, eh? Esatto. Vabbè, chi è? Danilo, su. Vuole perseguire questi fini nobili, abbattiamo le cose della politica, i 1.000 euro al mese ai disoccupati. Ma mi dà l'impressione di essere un copione di Berlusconi quando fa la campagna elettorale, perché poi come non mi dice come li vuole perseguire anche dal punto di vista politico, perché e poi un'altra cosa, e finisco, sì, veloce, qualche giorno fa, cioè prima all'indomani delle elezioni, disse, affermò, voteremo provvedimento per provvedimento. Sì. No, questo presuppone la nascita Tra l'altro, oggi, sì, vabbè, quello è chiaro. Tra l'altro, oggi, nei primi giorni, altri gruppi parlamentari hanno presentato 210 provvedimenti in tutto, forse anche troppi. Mentre il Movimento 5 Stelle, nessuno. Questo non vuol dire niente, ovviamente, però insomma, uno si aspettava, dice, abbiamo avuto anni, mesi per prepararci all'entrata in Parlamento, e insomma, no, magari come segnale, eccetera, uno presenta un provvedimento legislativo, così magari l'abolizione totale del finanziamento pubblico, che si può fare con una riga. Non mi molesta il moschito, No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique. Sì, buongiorno. Allora, è la Zanzara Radio 24? Sì. Sono Giambattista De Monti. No. Da Cagliari, vicino Cagliari, Fuji. Ma non siamo Radio 24. Allora, dottor Cruciani, innanzitutto grazie, perché la Zanzara è il più bel programma radiofonico. Sì, perché concordiamo, sì. Come litigate voi non litiga nessuno. Io a sentire voi che litigate, sì, torno a casa, non devo più picchiare mia moglie. Ci scusi, ma questa minchia, è una volta l'ammazzavo di botte, sì, ora che sento voi le porto i mazzi di mimose anche a Natale. Arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique. Parenzo, sì, ma invece di, Parenzo, invece di continuare a dire no, lei Parenzo, è anche merito suo, è inutile che se la ridacchia. Beh, Parenzo, ma perché non va mai in studio da Cruciani? Sta al telefono dal gabinetto di casa, che cazzo? Non lo sappiamo, soffre di colite, Parenzo. Non me moleste moschito. Non mi moleste moschito. La ringrazio, dottor Cruciani. Grazie, sì, dottor Parenzo, grazie. Ma non siamo dottori, non né Cruciani, siamo né Parenzo, dottori né Cruciani, né Radio 24. No. Non siete. È Radio DJ questa. Matta cazzo, ma potevate dirlo prima. Ho parlato 20 minuti, mandate a fanculo, no! Chiamate subito il dottor Forbice su Radio 1. Ma guarda te, la gente politicizzata in Italia, no, serva degli editori catocomunisti, cazzo. Mi accendo la macchina e me ne vado. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste Davide, moschito. Davide, come sei ridotto, la gente infierisce tra l'altro, infierisce, la gente ti vorrebbe morto, senti questo qua che ti vuole morto, senti, stai zitto, non parlare, Mauro da Mantova, Mauro. Buonasera Cruciani. Ma che vuole Parenzo? Purtroppo non è schiattato. Ma come purtroppo Parenzo! Non è schiattato, ma lei è un coglione. Parenzo, mortaccia! Ma dai, è una merdaccia Parenzo, dai. Vabbè, ma adesso lei ne approfitta perché. Ma ne approfitta perché non può parlare, su. Ma magari se si è partito la parola per sempre quel somaro, dalla merdaccia quello di Roma, se c'è un somaro è lui. Ma come si fa a infierire su una persona che è stato educatissimo quel signore là? Ma chi? Si chiamava Rinaldo la settimana scorsa, quello di Roma, Rinaldo. No, Riccardo, educatissimo. Ma come si fa a dire così? Guarda. Beh, poi educatissimo Cruciani. Mauro, adesso non esageriamo. Cruciani. Sai come si chiama Mantova? Come si dice? Si chiamano l'uomo del legno. L'uomo? L'uomo del legno. Ma chi? Ti spiego anche perché. Ma chi? Parenzo? A me, mi chiamano l'uomo del legno. A lei la chiamano l'uomo del legno perché c'ha il legno in testa lei. No, me l'ho acquistato il 113 perché volevo picchiare un negro, cesso di cazzo, però ma mi voleva aggredire, allora io ho cercato fuori il legno, dai, vieni qua a picchiarmi, dai, vieni, ti aspetto. E che c'entra l'uomo del legno? Ah sì, perché tempo fa c'erano quelli raccomandati che lavorano per le municipalizzate, sì, che venivano a rompere le scatole con i soffi a foglie alle 6:20, sì, poi dalle 9 di mattina all'una, sì, andavano a rompere le scatole alle bariste, però quelli li paghiamo noi, no? Allora, a me mi viene a rompere le scatole alle 6:20, poi mi viene a rompere le scatole alle... Ma che c'entra il legno, scusi? Perché mi sono conseguito con un legno, lo volevo picchiare di legnate. Perché hai preso... Ho visto una persona e dopo mi ha riconosciuto, dopo me mi ha detto, ma lei è l'uomo del legno? Sì, probabilmente sì. Perché, vedi, cioè, qui in Italia, siccome che la magistratura è tutta come la Boccassini, come sì, il Romano, quello che ha condannato per 8 anni... Torto, sì, ingiustamente, sì. Ma che c'entra Torto? Non mette in mezzo Torto, la scusi, con queste cazzate. Insomma, siccome che la giustizia è messa in questo marasma qua, sì, la giustizia te la devi fare tu. E lei come gira? Ma lei come gira? Col bastone in mano, non ho capito. Col bastone, con coltello e con tutto quello che ci serve. Sì, non ci credo. Ma lei ha l'auricolare ma intanto? Mauro, Cruciani, all'auricolare o no lei? All'auricolare? Non ho l'auricolare. Allora parli bene, perché parli a voce alta, non parli con questa voce bassa. Allora, quando sono stato l'anno scorso a Milano per lavoro, sì, a Cormano, sì, io dissi era per viare Jenner, cosa sì, credeva? Che girassi pulito? Ma non penso proprio. E che aveva dietro? Avevo un coltello da 35 centimetri, o 40. Un coltello da 35 centimetri, e poi ma che fare? Ma che le serve il coltello da 35 centimetri? Ma secondo me c'è stato ancora Viale Jenner. Ma perché deve andare a Viale Jenner lei la sera a Milano? Mi spieghi perché? E deve... non lo vado a mangiare, e non lo vado a mangiare. Ma può andare in tutta Milano, perché devo andare a Viale Jenner a mangiare? A parte che ma mi scusi bene, se c'ho l'alloggio lì, perché devo andare per il taxi. Ma uno non può girare con un coltello da 35 centimetri, che ci faceva questo coltello, scusi? Ma mi scusi bene, io esco, cioè finisco di lavorare che sono alle 7, no? Sì, che sono a Milano, sì, lì vicino a Viale Jenner, con mano. Sì, sì. Io dopo vado in albergo, mi spoglio, faccio la doccia, mi vesto, arrivano le 10, sì, 10 e mezza. Vado a mangiare qualcosa in pizzeria, arrivo alle 11 e mezza, mezzanotte. Devi girare in Viale Jenner o in Viale Paolo lì a mezzanotte e mezza, vabbè, che incontro, ma lei è un poveraccio, ma lei è un poveraccio, dai, è un poveraccio. No, io non sono un poveraccio, io sono un realista. Vabbè, ma e Apparenzo cosa vuole dire? Apparenzo non ho capito. Che quando decide di suicidarsi è sempre tardi, perché lui ha avuto il coraggio di dire impresentabile Schifani. Ma allora chi ci presenteremo noi? Cioè, ha detto che Schifani, da Schifani non comprerebbe nemmeno un'auto usata. Vabbè, la solita stronzata di Parenzo. Su. Ma si rende conto di quello che dice? Ma si rende ha detto una stronzata. Vabbè, ma... Leccacolo di Benedetti. Lui è leccacolo di Benedetti. Ma si rende conto le porcherie che ha fatto De Benedetti in 40 anni? Sei un leccaculo di De Benedetti, ha detto David. Tu sei soltanto un povero stronzo. E lo dico con le ultime parole che ho. Sei un povero stronzo. Quando la zanzarina tormenta la mia noce. Siamo qui con Filippo Facci. Ciao Filippo. Ave. Ave, ave, ave. David? Morituri te salutant. Ma che c'hai, mamma mia? Guarda, morituri te salutant. Ciao, ciao Morituro. Guarda come sta, lo sai perché è ridotto così, Filippo? Lo so, perché è nato così, lo sappiamo tutti, però cerchiamo di di parlargli lo stesso, no, e di integrarlo, perché questa è una coglione... società libera. Ah, no, vabbè. Sì, insomma, siamo comprensivi anche nei confronti... No, di... ma perché sì, Vittorio... Cioè, c'è anche tu le tue quote, come si dice, le quote Parenzo. Io ho la quota Parenzo. Che c'è, Davide? Perché ti ha trascinato Sgarbi? No, sei ridotto telefonagli. A chi? A Vittorio? Sì, chiamalo, mi ha portato quella sera di sabato, dopo il collegamento di in onda, sì, a vedere un cimitero di cui non me ne fregava nulla, dove si diceva che c'era una cappella con un affresco del 500 di cui me ne fregava ancora meno. C'era un freddo pazzesco, sta corte allora di miracoli. Allora sei diventato leghista. Ma uno poteva andarci anche coperto, non era necessariamente necessario. Non lo so, però abbiamo lasciato le giacche lì in macchina, lì che diceva questa è una cappella, qui c'è, ecco, qui c'è l'allievo di Tiziano, poi c'è l'otto, e adesso dobbiamo vedere la cappella, adesso il giardino, e poi dopo ma c'è... Ho capito, ma non è necessario ammalarsi, andare lì senza essere coperti, senza una sciarpa, nevicava lì. Nevicava. Mi avete telefonato a fare, per me è tutto molto interessante. Ma è un salotto questo qua, Filippo, lo conosci? Non è che sei lì impettito lì a fare la solita cosa, la tiritera come faceva in onda l'estate scorsa, cioè è un'altra cosa. Scusa, no, ma non ci crederai, ma stavo facendo una cosa che a voi, insomma. Cioè che cosa stai facendo, scusa? Ho tremore a dirlo in questo periodo, stavo lavorando. Stavi lavorando? Stavo scrivendo un articolo in cui parlavo di, insomma, dell'aria che tira, del... Nel paese, sì, non nel colorido programma dei Parenzo. Così. Allora, una domanda molto diretta a Parenzo: ma tu sei d'accordo con l'annunziata quando dice che ha fatto bene a dirlo oppure no? Oppure molto nel servizio bene. Pubblico non si può dire, eccetera, eccetera. Dimmi. Molto bene. La domanda è ben formulata: cioè, ha fatto malissimo a dirlo. Cioè, voglio dire, l'aria che tira è proprio questa roba qua. Perché? Scusa, è il clima in cui un'intervistatrice di secondo me, di dubbia presentabilità come l'annunziata, la Rosy Bindi del giornalismo italiano, si è permessa di dare dell'impresentabile ad Alfano, non è chiaro da quale pulpito, o meglio è chiaro nel senso che l'avete detto, è la RAI, il servizio pubblico, il canone, e non, laddove non si fa, non ci si attende che uno vada a fare un'intervista per esprimere e per fare la proprio predicozzo, poi anche professionalmente, diciamocelo, c'erano dei modi molto più abili e furbi di dire e sostenere la stessa cosa senza impalcarsi in quella sgraziata maniera e dire ma il problema è che siete impresentabili, dando anche un assist straordinario in termini legittimamente vittimistici ad Alfano, ecco. Ma perché tu, però scusa, perché la Rosy Bindi del giornalismo italiano? Fisicamente. No, ma tu nelle tue fisicamente la Rosy Bindi del giornalismo italiano, cioè è lei a essere impresentabile, questo vuoi dire? Assolutamente sì, ed è ignobile dirlo e fare questo tipo di sottolineature. Cioè, fisicamente impresentabile. Basate sull'aspetto fisico, ma se lo merita. Perché cioè, nel momento impresentabile questa espressione orrenda che è stata rivalutata prima delle elezioni per definire chi è presentabile e chi no, sì, eccetera, sì, sulla base dei sondaggi di opinione. Cioè, ecco, l'annunziata ci permette di rinsaldare le nostre convinzioni sul fatto che per capire l'aria che tira bisogna sempre guardare in Rai e bisogna sempre guardare all'atteggiamento di certi giornalisti di cui lei si candida da esponente. Ma perché l'aria che tira? Spiegami, perché dalle parole dell'annunziato dovremmo cogliere l'aria che tira? Cioè, l'aria che tira è quella di considerare una parte del paese come qualcosa di questo è sempre avvenuto in realtà, non è la prima volta. Ma che l'aria che tira, signori, che cosa, scusami, è sempre avvenuto? È sempre avvenuto che una parte giornalistica, culturale del paese abbia considerato Berlusconi e i suoi deputati, i suoi senatori, i suoi uomini una sorta di corpo estraneo, diciamo. È diverso, adesso siamo arrivati, voglio dire, a un punto che dovrebbe preoccupare, secondo me, perché insomma c'è, bene o male, voi sapete che io sull'impresentabilità del PDL mi sono esercitato a lungo ultimamente, quindi non posso essere, cioè, per te sono impresentabili, ma l'annunziato non lo doveva dire. Ma soprattutto non per il motivo che poi ha addotto, che è quello della manifestazione. Insomma, è innegabile, c'è una sorta di apartheid culturale politico, dai, nei confronti del PDL. Non è penalizzato il PDL, è escluso, è diverso. Insomma, anche un certo Cruciani ieri l'ho visto a scompostamente agitarsi un programma e dire: ma che intesa può trovare il Partito Democratico con Grillo, visto che non c'è convergenza su niente? Ecco, col PDL non si cerca neanche, proprio perché c'è questa apartheid di impresentabilità che francamente magari è meritato o no? Meritato no, così fino a questo punto non è meritato che arrivi l'annunziata e dica lei è impresentabile durante un'intervista. Ma non le deve dire perché è un'intervista o non le deve dire perché è servizio pubblico? Non ho capito questa cosa. Non è che una ragione scuda l'altra, voglio dire, le ho appena detto, cosa faccio, le ripeto, non la deve dire perché uno è professionalmente commendevole ed è proprio un incapace, perché poteva dirlo e andare sugli argomenti in modo che chi guardasse, indipendentemente da come lo pensava, capisse qualcosa. E invece ha capito solo che l'annunziata è un'uterina e non c'è stata dentro, infatti se ne è resa conto subito, si è vista. Di che stavo dicendo? Non lo deve dire perché era un'intervista, perché... Ma perché servizio pubblico, tutte quelle cose lì, insomma, cioè è come Santoro, è viva Santoro da quando è andato alla 7, voglio dire, cioè il punto è... Noi siamo quelli che diciamo che un conduttore, un giornalista deve sempre esprimere in qualsiasi ambiente esso si trovi, che sia una televisione privata, Cioè io a qualche distinzione la faccio ancora, se faccio un'intervista è un conto, dove la faccio è un altro, se sono un opinionista, un intervistatore, se sono lì come ospite, come non lo so, analista o che altro, io qualche distinzione la faccio ancora, quelli che non la fanno più sono i grillini, forse oddio ho toccato un argomento che... Ma che vuoi, non è che se uno ha votato Grillo significa che c'ha il timbro in faccia, Significa che non è che in qualsiasi momento della propria vita uno si può alzare in piedi, mettere sul banco e siccome esiste l'articolo 21 della Costituzione mettersi a sparare il proprio giudizio, esiste anche una questione di opportunità o meno, di furbizia e di servizio pubblico che ha reso che ha fatto sì che adesso siamo qua a parlare di Lucia Annunziata invece che i problemi che Lucia Annunziata era pagata per evidenziare, cioè quelli che sono le ragioni addotte alla sua intervista. Andrebbe cacciata dalla Rai secondo te o no? Dopo una cosa del genere. Ma che mi fa, andrebbe sciolta la Rai, ma che mi frega. Vabbè, quello di base, d'accordo, ma un servizio pubblico serio di fronte al fatto che uno dice impresentabile una parte del paese, non andrebbe cacciato, programmi sospesi, cose di questo tipo, no? Tutti, ma sto clima, madonna, delle cose, è il clima che mi preoccupa. L'altra sera sono andato, mi hanno detto adesso che l'hanno passato a Blob, a programma della Rai. E te ne sei andato, ad Agorà? Me ne ho fatto finto, ho fatto la scena di andarmene, c'era la, come si chiama, l'altra uterina, la Costa Magna. Uterina pure mappa. Lei, tutti uterini sono. Mamma mia, sì, ma beh, uterine nel suo caso. Nel suo caso in che senso, scusa? No, non portatemi sotto te. Lei hai detto tu, uterina nel suo caso, che vuol dire? Ma sono cose personali. Che è frigida, non ho capito, è uterina, non ho capito. Che vuoi dire? Che ne so, io. Ma l'hai detto tu, nel suo caso, uterina. Hai le prove? No, tu hai detto uterina, nel suo caso, lasciamo perdere. Che vuol dire uterina, nel suo caso, lasciamo perdere? Non, nego di averlo mai detto. Vabbè, non vuoi approfondire. Ma no, tu quando parli di uterina, che vuol dire uterina? Ah, l'uterina, perché l'hai già sentito, me l'hai già sentito dire sta cosa. L'hai detto già con l'annunziata, adesso diciamo l'annunziata, uterina, ma spiegalo agli ascoltatori, non è che tutti quanti sono così, come dire, no? Così... colti preparati, specialmente i vostri ascoltatori. Esatto, specialmente i... Dunque spiega cosa vuol dire uterina. Allora, uterina, vediamo. Valla a cercare, su. Io? No, lo giuro, sai, infatti lo sai. Dirò malissimo. Allora, io intendo perlomeno per uterina è una donna imprescindibilmente istintiva, sensuale, che non sa ponderare in questo caso, molto passionale nel senso... Che reagisce con che? Con l'utero? Tipicamente meridionale, sì, ecco, mettiamola così. Tipicamente, ma non necessariamente. Insomma, mi sono spiegato? Beh, sì. No, non ti sei spiegato. No. Vabbè, può anche darsi che voi non abbiate capito. Cioè, la reazione, quando tu parli di reazione uterina, sì. Cosa vuol dire? Vabbè. Isterica, quasi. Isterica. Da parte di chi? Comportamenti irrazionali, istintivi, emotivi e in genere privi di equilibrio e ponderatezza, così definiti in base a uno stereotipo, in quanto considerati tipicamente femminili, istintivi viscerali. Questa è la cosa. Bene, no? Reazioni uterine, sì, ma l'ho preso da vocabolario. Abbiamo la pubblicità, sì. Torniamo subito. 800 24 00 24 con noi Filippo Facci, che ha detto che la reazione dell'annunziata è stata uterina e ancora che l'annunziata è impresentabile fisicamente. Vabbè, beato lui. Certo, se il programma di Grillo era quello esposto durante la campagna elettorale, fuori dai coglioni tutti, gridatemi populista e demagogo, l'inizio così balbettante dei suoi gruppi, oggi però hanno messo due commissari politici, hanno messo due bei commissarioni politici, chiamati così in maniera generica, consulenti della comunicazione, in realtà l'ha chiamati Casaleggio e ha detto: sentite, andate a controllare la situazione alla Camera e al Senato. Quello del Senato l'abbiamo ascoltato prima. È un mio amico, però comunque quello è, gliel'ho detto, sei il commissario politico, poi lui la mette su un altro piano, è legittimo, però quello è. Fuori dai coglioni tutti, vanno via tutti, tutti! Populista! Populista! Populista, gridatemi, vi prego! 1, 2, 3, dite populista tutti insieme! 1, 2, 3, populista! Sì, anche demagogo, ci sta bene! Demagogo! E pare che alle consultazioni, anzi dice Crimi, il capogruppo al Senato, alle consultazioni di giovedì, quando sarà mercoledì, andrà Grillo e forse anche Casaleggio, tutta da gustare la scena della stretta di mano tra Napolitano e Grillo. Tra Napolitano e Grillo, impresentabile, ci sei Facci? Sì, come no? Bello, ma... fantastico. Scusa, non ho capito chi è quello che conosci portavoce al Senato, perché io ne conosco pure uno dei due. Messora conosco. Ah, io invece conosco l'altro, conosco Martinelli. Sai com'è successo? Com'è successo? Perché ci stavamo per prendere a pugni in faccia durante una trasmissione, ma sul serio, proprio io lo volevo ammazzare di botte questo signore, perché una trasmissione della domenica, lui si era proprio, non lo so, dal niente, si era alzato, tra l'altro sarà 1,90 buoni. E se n'è andato? No, si è alzato e mi ha detto: servo... una cosa del genere, non mi ricordo se serve. Che trasmissione era? Che trasmissione era? Era una trasmissione terribile. Cioè? Quale? Come si chiama? Domenica Live. Trasmissione terribile, Domenica Live? Beh, sì, perché non è mica una trasmissione facile, voglio dire, stare in quel clima lì. Cioè, non è mica facile, poi ti ritrovi appunto un pazzo che... Comunque, vabbè, ecco, e così siamo diventati nemici. Ah, perché questo qua era quello. Ah, sì, ogni tanto era ospite della... Sì, no, ogni tanto. Ma pensavo che fossi amico della D'Urso, in realtà tu. Eri molto intimo della D'Urso, invece no. Intimo, ma nel senso di amicizia. Di quali argomenti vogliamo parlare seriamente in questa telefonata, caro? Perché no, cioè tu potresti parlare di certe cose, se io ne posso parlare di altre. Se vuoi cambiamo il nome della trasmissione, dalla zanzara alla, non lo so, alla mantide religiosa. Ma no, ma non c'era nulla di ste... Sto dicendo, siccome hai detto una trasmissione terribile, pensavo che invece avessi un film... No, terribile insomma, significa tante cose, anche la tua vabbè. Trasmissione terribile, cioè appunto, significa... Vabbè, comunque alla fine avete fatto botto o no? Beh, ci siamo andati veramente vicini, siamo messi le mani addosso, questo sì, però poi sai com'è, no? Sai come quelle scene in cui arrivano a dividerti e tu sei lì a aspettare che arrivino a dividerti, no? Adesso ti presento una persona, aspetta, aspetta, lo mandiamo a casa Parenzo o no, che sta male? Mi saluto. Mandalo, mandiamo, prendiamo in mano la situazione, Filippo, prendiamo in mano la situazione. Pronto? Oddio. Direttore? Ehi. Eccoci qua, come stai? Sento poco, ma insomma... Senti? Speriamo. Ci senti? Non benissimo, però va bene. Ma dove stai, a casa? E questo è il numero di casa che avete fatto. Ah già, è vero, no, pensavo avessero fatto il cellulare, scusa. È diventato sordo. Conosci Facci? Conosci Facci? Facci, certo, lo stimo anche. Lo stimi pure? Sì, cioè, sì, ma io non ho capito chi è. È Fede, Emilio Fede, il direttore. Ah, oh, sì sì, infatti questa è un'imboscata praticamente. Hai fatto uno scherzo a tutti e due praticamente. No, che c'è? No, che scherzo a chi? No. Nulla contro Facci. No, no, figuriamoci. Hai scritto qualche cosa di pessimo su Fede, Facci, qualche volta? Assolutamente sì. Ah, sì? Che cosa hai scritto? Non lo sa lui? No, non c'è ragione di ricordarlo. Non è per vigliaccheria, ma per buon gusto. No, invece più che buon gusto, cosa puoi dire? Che ho rubato, che ho ammazzato, che ho rapito, che ho stuprato, che No, non lo posso dire. Non lo posso dire per due ragioni. La prima è che è proibito. La seconda è che in qualsiasi caso... non credo siano le uniche cose che si possano fare nella vita. Stuprare, ammazzare, ce ne sono anche altre, dirigere telegiornali, per esempio. Vabbè, che c'è? Non è che... certo, ma infatti, guarda, ha ragione Facci. Sì. Io ho buttato via, sono stato un pessimo direttore del TG1, 27 anni di Rai, sì. 25 anni con Berlusconi, 2 anni RTA. Sono un incapace. Non l'ho detto. Non l'ho detto. Vabbè, Facci, ti diverte fare il provocatore. Vabbè, ma no, ma no, che male, sto cercando di essere più diplomatico. Più diplomatico di così, come posso essere? Quindi mi piace perché rivivacizzi tutto. Ma sì, ma Facci è per me è sempre il numero uno, per cui è inutile. Certo, cioè, io voglio dire, rispetto, Facci quel che vuole. Ha scritto delle cose terribili su di te, credo di ricordare, però non ho fatto nemmeno apposta. Qualunque cosa. Va mi bene, va benissimo. Ti va benissimo, anche se ti ha detto appunto, che sei un trafficante di cocaina, no, quello non mica... Sì, sono un guarda, io traffico cocaina... Io non l'ho scritto che è un trafficante di cocaina, forse manca quello, c'ho però... un sommergibile mio personale, che viene qui nell'ambro. Senti, dimmi qualcosa sull'Annunziata, hai visto che ha dato dell'impresentabile ad Alfano e a quelli del PDL? Sì, lo trovo veramente di cattivo gusto, pur... avendo considerato che l'Annunziata sta un po' perdendo la capoccia, cioè, perché in che conosco senso? Da tanti anni, sono amico, ha detto una cosa che poi tutti quanti sono scusati, ma cosa ha fatto a capo A? Quella cosa lei non la può dire di nessuno. Perché? Ma perché non si dice di nessuno, non si può dire che un partito nel suo insieme è impresentabile, non può però è coraggiosa, sì, è facile adesso, perché non lo dice di come cazzo si chiama lui, la di come Bersani? Si... Beh, non lo dice perché è bersaniana, che c'entra? No, vabbè, è di sinistra, l'abbiamo sempre saputo, sì. Però è diventata nell'ultimo tempo, penso io la conosco da tanti anni. Raccontami qualche cosa, lo sai che dice oggi, ho letto da qualche parte una persona che la conosce bene, Luzzatto Feggiz, credo, che dice che andava e girava il TG3 con Scalza, praticamente, quando era direttore del TG3, credo. Scalza parlava come un maschio con gli uomini, una cosa. Ha raccontato delle cose terribili. Vabbè, però guarda, pensa che quando lei è diventata direttore del TG3, io che certamente non sono un uomo che possa capire e schierarmi quella sinistra così di provocazione, le ho mandato un mazzo di rose e lei mi aveva invitato ad andare a Roma, come si chiama il locale? Bella Blu, al Bella Blu, guarda, mi ricordo, dice, se vieni al Bella Blu andiamo a cena insieme e andiamo a sentire la musica al Bella Blu, pensa tu come sono fatto io, poi ha fregato anche me. Non perché? È... In che senso? Beh, vuol dire in alcuni collegamenti ha tirato fuori delle cose che poi mi hanno creato dei problemi. Cioè ha parlato male di te? No, sì, le veline, le donne portate a Berlusconi. Non ricordo a che proposito. A proposito di Bunga Bunga. Certo, che ha detto su Bunga Bunga? Ma non mi ricordo che cosa non mi ha fatto. Vabbè, ma tu un errore l'avevi commesso pure durante Bunga Bunga, Emilio, dai. Ma hai visto l'altra sera quella giornalista di TGCom 24, hai visto che ha raccontato? Quella Trevaini, tu la conosci, Facci? La conosco io, vuoi sapere? Ah, dimmi. La signora Trevaini. Silvia, credo Trevaini. Non mi ha mai invitato. Non se ne offenderà. Sì. Era venuta da me, presentata da una signora, che non mi ricordo più chi fosse, credo di pubblicitario, non lo so, per fare casting, credo come meteorino, cosa di questo genere. È venuta così poco vestita, trasparente, visto che era l'estate. Cioè, nuda è venuta? Io, però, proprio nuda no. Quasi. Adesso dico, scusi, ma abbia pazienza, ma lei non può presentarsi così. Allora va a cambiarsi. Ma io abito a Varese. Va a Varese e poi torna. Anzi, mi passa la cortesia, non attraversi la redazione così poco vestita. Ho chiamato la mia segretaria, gli ho detto dategli uno scialle, una coperta, quello che pare, e esca, e non l'ho più cercata. Non ho niente contro di lei, ci mancherebbe altro, Emilio, salvo che avere letto pare, se è vero, che ha preso, che ha guadagnato un sacco di soldi. Beh, ma Berlusconi perché gli ha dato tutti questi soldi? Ha una casa? Non lo so. Soldi a... Non lo so, perché posso dire senza offesa. Beh, dai, non, su. No, nel senso che non ha... Io non so per quale ragione. Forse era fissata. Con che? No, ma poi è stata assunta. Non da me. Chissà, e come mai è stata assunta, secondo te? Come mai? Come no, mai? Perché perché come giornalista, cioè una cosa è essere giornalista. Dai su, ma non è un caso, dai. Lei aveva la fissazione legittima, per quanto ti pare, si fa per dire, sì, di condurre. È una cosa è stare dietro le quinte, scrivere, fare i servizi, eccetera. Io non le nego, non l'ho mai vista, non l'ho mai vista lavorare, non mi interessa, però io ho detto, per me non va bene, difatti io non l'ho. Ah, ti hanno chiesto se la volevi, tu non, fosse stato per te non l'avresti assunta? Assunta come giornalista, perché no? Ma assunta per condurre, lei aveva... Ah, per condurre, come vabbè. Come si dice in Cina, la mania? Mania o mania? Mania. Mania. La mania di andare in video. Ah, vabbè, ma sai, quello ce l'hanno tutti, lo sai, no? Sì, certo, ce l'hanno anche Ma com'è Berlusconi gli ha dato tutti questi soldi, secondo te? Ci sarà un motivo? Guarda, francamente non lo so, perché io non ho mai sentito parlare di questa persona. Non mi sono interessato. Ho letto, ho appreso, come voi, sul giornale, che la sua... Per l'ennesima volta la sua generosità, perché lì non è... Ah, generosità, dice. Generosità, dice. Beh, ma scusa, ma che interesse poteva avere di altro genere? Non lo so, ma che ne so, io sai, una bella donna, una bella ragazza. Ah, cosa? Bella ragazza, non lo so, non dico niente, io non dico niente. Bella. Certo, è strano che uno dice, vabbè, prendi lo stipendio da TGCom 24, dov'è TGCom, eccetera. In più, 3.000 euro al mese per risarcimento dopo quello che è successo, quello che dà a tutta una serie di persone. In più, gli hai dato un sacco di soldi per comprarsi un Audi, ho visto, un sacco di soldi per comprare la casa. Ma l'ho letto come voi. Pare bizzarro, così, no? Guarda che questo l'ho letto come voi, io non lo sapevo assolutamente niente. Non era una persona... Che io ho frequentato per nessuna, tranne quell'una volta o due, no, una volta soltanto. Che venne in redazione da te? È venuta in redazione. Nuda, mezza nuda. Come? Mezza nuda. Non ho detto mezza nuda? Beh, quasi. Ma d'estate vestita in maniera. Succinta. Dice, non conforme. Cioè. Però era una bella ragazza, cioè uno la guardava, no? Vabbè, mi fai dire che è una bella ragazza, se ti fa piacere dico una bellissima No, mica lo devi dire per forza. Bella, alta, 1,80 m, occhi azzurri, capelli... No, quello no, non è 1,80 m, è più bassa. Personalmente non è una persona che posso giudicare... Vabbè, ma tu ti sei sentito chiamato in causa quando l'ha annunziata, ha detto impresentabile, Emilio? Mi sono, certo, sì, io non nego che di essere, come si dice... Offeso da questa cosa, possibile candidato al Senato. No, ma al di là del candidato, cioè quando uno dice siete impresentabili, poi uno che come te ha votato Berlusconi, eccetera, magari si sente offeso da questa cosa qua. Cioè, no? No, io mi sono sentito offeso per tante ragioni. Prima di tutto, perché nessuno si può permettere, nei confronti di chiunque lei avesse detto questa frase, io non l'avrei condivisa né contro Vendola né contro Bersani né contro. Allora, Luzzatto Fegiz dice: quando dirigeva il TG3 andava in bagno scalza perché lasciava le scarpe sotto la scrivania, una vera signora, con i giornalisti maschi usava un linguaggio da caserma, ma il suo vero limite è sempre stata la sintassi, la scarsa conoscenza dell'italiano, il carisma televisivo di una verza. Quando Berlusconi la mandò a quel paese per la sua arroganza formale, fu una delle rare occasioni in cui ti fai per il cavaliere. Ti è? Così. Io non voglio dire che posso condividere tutte queste cose, ma se le racconto evidentemente avrà qualche ragione per raccontare, quindi avevo visto bene da certi punti di vista. Adesso non vorrei che dopo tutto Faccia quello ha detto che è impresentabile, mi fa pure querela, perché sai, no, io e voi dobbiamo pagare a Vendola 1.500 euro, non a lui ma a una fondazione, dobbiamo ancora pagare, io ancora devo pagare. Quelli sono pochi euro, dai. 1.500 euro non sono pochi, no, ma per dire, no. Facci ha detto che lei è impresentabile fisicamente anche. Chi l'ha detto? Facci? Sì, l'ha annunziata, però guarda. Vabbè. Ah, l'ha annunziata. L'ha annunziata, no, detto. Ci mancava solo che diceva che era una culona inchiavabile e poi era finita. Ma di chi? Facci ha detto dell'annunziata che è impresentabile fisicamente. È impresentabile lei fisicamente. Vabbè. Vabbè, Io cioè, sono stato molto amico dell'Annunziata. Annunziata, e poi però ho visto che c'è, guarda, c'è oramai un'aggressione reciproca, l'insulto, le cose, i termini offensivi. Sì, ai miei tempi, sì. Rai, eccetera, eccetera, tutto questo non avveniva. C'era anche il rispetto nei confronti dei cosiddetti avversari, che poi comunque, e invece adesso. Adesso io non faccio il TG4, quindi me lo sto buono, tranquillo. E vengo ospite qualche volta in qualche trasmissione, benissimo. Ma la sera che fai tu, per esempio, adesso? La sera, di solito? Guarda, come la passi la serata? Sono sincero. Davanti, guarda, alla televisione, sul divano? Sì, seguo molto la televisione. Faccio quello che non sono riuscito a fare per me. E a che ora vai a letto? Invece una volta andavi a letto tardissimo, diciamo. Sai che ora vado a letto? A che ora? Mediamente alle 3:30, alle 4. Sai perché? Perché? Perché a una certa ora... Vai a comprare i giornali, c'è storia. Il tassi e quello che sia, vado sì, l'autista. L'autista. Prendo i giornali, sì. quelli che escono, quelli sì. Che dopo, e vado a dire Corriere della Sera. Guarda, ti dico gli orari: 1:40 Corriere della Sera, alle 2 Repubblica. Alla ogni sera, prego. Ogni sera, ma non è mai letto troppo tardi, alle 3:30, Emilio. Ma lo dai, so, anche alle 4, però è il mio vizio. E la mattina a che ora ti alzi? Quante ore dormi? No, al mattino dormo poco, al mattino mi alzo alle 8:30. Ma hai visto Berlusconi con quegli occhiali? Ti è piaciuto? Bello, no, con quegli occhiali? No, no, quegli occhiali non mi piacciono. Perché? Perché? Ma perché no, non mi piacciono. Da boss, un po' troppo da boss. Non è questione da boss, non mi piacciono. Sì, io, guarda, non è che posso dirgli, gli occhiali scuri in genere, sì. Chiunque li porta, a me non piacciono. Ecco, lui, devo dire, con quegli occhiali lì sta malissimo. Sta malissimo, e come mai? Cioè, fa la figura del boss? No, della persona che non sta bene. E lui deve sempre dare la certezza che poi era anche dei guai, certamente all'occhio. Però, che l'aveva. Come? Però dici? Però niente, non mi piace. Visto lì, seduto lì, mamma mia, sembrava cieco. Sembrava cieco, sì, sembrava un po' orbo, sì, è vero. Cieco. Vabbè, Emilio, ti ringrazio, un abbraccio, Salutami Facci. Facci è scappato pure. Parenzo sta male, un disastro stasera. Senti, no, ma volevo dirti una cosa. Dimmi. No, ieri sera, guarda, io per esempio ieri guardo tutto quanto, un momento politico importante, sì. Ho visto questa Laura Boldrini. Io quando facevo il TG4, sì, mi collegavo spesso con lei, che era portavoce dell'UNESCO, dei profughi. Poi ho smesso di collegarmi con lei, perché era sempre tutto quanto, la responsabile di quello che accadeva era degli Stati Uniti, alla fine ho deciso... E anche di Berlusconi, ovviamente. Come? E anche del governo Berlusconi, sì, spesso. Sì, anche del governo Berlusconi. Francamente, sono sincero, mi aspettavo... Mentre... Grasso ha un altro carisma, un'altra cosa. Questa che poi arriva al mattino a piedi al Quirinale, c'è una demagogia, una retorica da 4 soldi, va al Quirinale a piedi, ma per favore, è quell'altro che vabbè, dai, è pure un gesto così, di che cosa? Ma di che cosa? E come deve andare al Quirinale? Con la scorta? Ma no, adesso è tutta demagogia. Ma tu, per esempio, al giornale alle 3 di mattina, come ci vai a prendere? Con la scorta? No, no, che scorta, non c'è mica più la scorta. Non c'è più la scorta? No, no, no. Vado a prenderlo, sai come? Come? O mando, con l'autista. O quello dall'edicola Corrado manda il taxi e io lo pago qua, oppure mi diverto, mi metto in tuta come sono e vado a comprarmi il giornale. Però che uno arriva, la Presidente della Camera o Presidente a della piedi, Camera, dici. Arriva, dai, ma e c'è molta retorica. Adesso tutti devono far vedere che sono poveri, non c'hanno una lira, che sono bravi, gli altri sono... Ma prenditi un taxi e vai là, no? A piedi. Prenditi un taxi e vai là da Napolitano, no? Perché devi andarci a piedi con la bicicletta? Ecco, no, scusami, ma quello lo trovo. C'è una voglia. Capisco, bisogna far capire. Però che... c'è. È falsa, suona falsa, una cosa falsa, no? Un po' falsa. Sì. Sì, poi passa, perché poi alla fine anche come vabbè, diciamo, anche Grillo, dai, anche Grillo adesso sta. Va bene, parliamo domani, va. Emilio, ti saluto. È malato per colpa di Sgarbi. È malato per colpa di Sgarbi. Sgarbi che gli ha dato pure dell'incapace, Gli ha dato anche dell'incapace. Cioè, è stato trascinato da Sgarbi nei cimiteri di notte a Torino mentre nevicava. Ma devi pensare alla zanzara, a condurre, a stare qui sul pezzo, mica andare per cimiteri. Io quando esco e fa freddo, mi copro sempre la gola, perché se mi arriva qualcosa mi sento male poi. Cioè, mi sento male, non posso andare in onda. Lo capisci o no, Parenzo? Devi stare più attento, devi pensare un po' di più alla zanza. Che Grasso è un'invenzione di Bersani. Beh, non è? No, l'ha inventato lui. Quando si è cambiato in Groia, cosa ha pensato bene di fare Grasso? Bersani? Di inventare Grasso, il quale ha rinunciato alla sua battaglia contro Grasso, la mafia. No, no. Sei un cazzo proprio tu, sei uno. Se non puoi fare una trasmissione invitando 700 invitati e tre sindaci, perché siete degli incapaci, dei morti di sonno. Qui siamo a Mirandolo, uno parla. Tutti i sindaci addormentati, ma che chi se ne frega di come andrà il governo? Ma questo sarà importante. Andrà a puttane. No, tu intervista il sindaco di Fenestrelle. Però scusami. Poi il top del top è l'ONU. Ferrara, l'ONU è un cesso. Ma un porta, uno che sarà portavoce, scusate, dell'alto commissariato, no, allora, dei rifugiati dell'ONU deve... Ma portavoce di che? L'ONU è un cesso. Vabbè, dai, allora sono anche gli altri. Marco da Prato, buonasera. 800 24 00 24. Siamo quasi in conclusione, ma siamo vivi, vivi e veggi. Almeno io sono vivo oggi. Quell'altro è sul letto steso lì. Se domani non gli torna la voce, lo vado a prendere col forcone. Marco, Marco Pasquale, provincia di Pescara. Marco, ci sei o no? Non c'è. Pasquale, provincia di Pescara, su. Salve, buonasera. Vabbè, mi fa venire il latte alle ginocchia lei subito con sta voce, però. Pasquale, dai. Come, scusi? Vada, vada, vada. Voglio dire che la mia... Niente, Alberto da Reggio Emilia, su. Alberto da Reggio Emilia, non si sente niente. Alberto? Alberto? Sì, sì, ma prenda il telefono bene, però. Alberto? Alberto? Eccomi qua, pronto. Allora? No, ascolta, niente, qua dopo tanto denigrare la Lucia Annunziata, io voglio fare il fans club a Lucia Annunziata, perché secondo me è la prima in 20 anni che ha avuto il coraggio di dire le cose come stanno. In che senso, scusa? Mi l'ha cantata in faccia, con una maniera molto, molto sincera, senza girare tanti turni alle parole. Vabbè, ha cantato in faccia, ha detto siete impresentabili. Secondo alcuni una cosa del genere non si può dire in un servizio pubblico, al servizio pubblico non si può dire perché siamo alla RAI, perché un giornalista... Io non sono d'accordo con questo. Penso che abbia espresso la sua opinione, ha anche sbagliato a chiedere scusa. Alfano gli ha risposto, punto e basta, il caso si doveva chiudere lì. È l'opinione dell'Annunziata, che sono impresentabili. Allora, a domani 18.30, ciao. La ringrazio, dottor Cruciani, grazie, dottor Parenzo, grazie. Ma non siamo Cruciani. Dottori non né Cruciani, siamo né dei dottori né Cruciani né Radio 24. No. Non siete. È Radio DJ questa. È matta cazzo, ma potevate dirlo prima. Ho parlato 20 minuti, andate a fanculo, chiamate... Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Cruciale, vaffanculo, non sei Cruciale. Radio 24. La passione si sente.